Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, bentornati. Radio 24, Voice Anatomy, sono le 14:31 primi e 56 secondi. Una nuova puntata di Voice Anatomy si sta apparecchiando. Già il primo ospite, uno straordinario attore e doppiatore, è al mio fianco. Non lo presento ancora, lo riconoscerete dalla voce, o cercheremo di farci raccontare delle cose della sua voce. Ma sapete perfettamente che noi l'inizio lo dedichiamo a delle grandi voci, che possono essere cantanti, attori, che ci hanno regalato delle forti emozioni. Oggi è il compleanno di una grandissima interprete, cantante, che ci ha regalato tantissime cose bellissime. Lei è Amy Stewart, nasceva il 29 gennaio, non diciamo l'età perché non è giusto. Voglio raccontarla attraverso questa bellissima canzone con un altro grande che non c'è più, che abbraccio ovunque è in questo momento, che è Mike Francis. Lei è comunque Amy Stewart e questo è Friends, siamo amici. Che bello, mi riporta tantissimo indietro. Come mi ha detto adesso nell'interfono la capo progetto Alessia Navarro insieme a Mauro Meconi, vuoi usare un altro superlativo? Oppure vuoi usare anche qualche congiuntivo? Ecco, non bastano gli sms al 349-238-6666 a riprendermi per il mio inglese, per i miei problemi grammaticali. Adesso ci si mettono anche internamente gli autori, che ringrazio e saluto come ogni domenica. Ringrazio Alessandra all'altra parte del vetro, Rachele, la nostra capo redattrice che fa capo a se stessa, infatti non si ferma mai, e un altro compleanno di una persona che ovviamente non c'è, perché parliamo di un grandissimo drammaturgo nato nel 1860, figlio di un droghiere, nipote di un servo, pensate. Vive un'infanzia all'ombra di un padre tirannico in una famiglia di sei figli, sognatore, innamorato della natura, apprende rapidamente esso a sopravvivere in solitudine al centro di una famiglia numerosa, e questo lo aiuterà a diventare l'autore de Il Gabbiano, Zio Vania, Il Giardino dei Ciliegi e tanti altri capolavori. Famose le sue ultime parole in punto di morte nel 1904, dopo aver bevuto un bicchiere di champagne. Ha detto: è tanto che non bevevo champagne. Pensate un po', lui era e rimarrà comunque Anton Chekhov. E grazie a Anton Chekhov noi possiamo cominciare a scoprire la voce del primo nostro grandissimo attore doppiatore. E allora, con tanto di sottofondo, leggiamo qualche frase, qualche aforisma del grande Anton Chekhov. Prego. Bisogna liberare gli uomini dal gravoso lavoro fisico. Bisogna alleggerire il loro gioco, dar loro un po' di respiro, perché non passino tutta la loro vita accanto alla stufa, presso i trogoli o nei campi, ma abbiano pure il tempo di pensare all'anima, a Dio, e possano manifestare più ampiamente le loro qualità morali. Prego. I dottori sono simili agli avvocati. La sola differenza è che gli avvocati ti derubano soltanto, mentre i medici ti derubano e per di più ti uccidono. Ecco. Qualsiasi idiota può superare una crisi. È il quotidiano che ti logora. Meglio perire per mano degli stupidi che averne gli elogi. Si dice che la verità trionfa sempre. Ma questa non è una verità. Beh, abbiamo aperto con delle massime, no? Bellissime, raccontate da questa bellissima voce giovane, ma già importante nel mondo del doppiaggio anche come attore. Lui corrisponde a un nome e un cognome che è Edoardo Stoppacciaro. Ciao a tutti, benvenuto. Ciao Pino. Grazie, bello. Grazie. Non sapete la gioia di avere questo ragazzo, perché di ragazzo si tratta. Quanti anni hai, Edoardo? 33. 33. Tu hai cominciato non da tanto. No, intorno ai 21 anni. Intorno ai 21 anni ho avuto il piacere di tenerlo per mano. Come tutta un figlio, colpa tua. Come un figlio tantissimi anni fa, quando aprimmo un'accademia insieme a mio fratello, un'accademia gratuita che ha preso per mano tantissimi ragazzi per portarli attraverso il mondo dell'arte in tutte le sue declinazioni, come Voice Anatomy. Non era soltanto il doppiaggio assolutamente, anzi il doppiaggio era il punto finale, che c'era Roberto Pedicini che vi insegnava, Massimo Giuliani e Roberto Pedicini. Tanti insegnanti, anche il grande Corrado Pani. Meraviglioso, infinito Corrado Pani, che te li raccontavo proprio poco fa, cioè, mi ha lasciato un ricordo. L'ha lasciato in tanti. Questo. Magnifico, grande. Per cui la fortuna di avere, ecco, una scuola di formazione, come la chiamavo io, occupazionale, nel senso non si formavano disoccupati, ma si cercava di formare occupati. Ovviamente non tutti sono riusciti a entrare nel fantasmagorico mondo del doppiaggio, perché è più difficile, insomma, lo sapete, lo raccontiamo da questi microfoni da tanto tempo. Non era facile, però Edoardo, in punta di piedi, con la sua grande educazione, preparazione e intelligenza, è riuscito a ritagliarsi un posto del doppiaggio e ha doppiato più film di me, più serie di me, per cui sono pure un po' invidioso. Ma come, non è vero? Ma che? Voi andate sul sito di Antonio Genna, cliccate Stoppacciaro Genna, esce la pagina di Stoppacciaro, una pagina, sono 10 pagine. Io non saprei da dove cominciare, ma qual è stato l'inizio proprio, quando sei entrato? Il mio primissimo turno fu con il mio allora maestro di doppiaggio Massimo Giuliani, che stava dirigendo le integrazioni italiane per Don Matteo. Ah, per cui hai cominciato con... Ho cominciato con Brusio Carabinieri, e la mia prima battuta dei carabinieri che passavano sullo sfondo, ancora me la ricordo, era: qui ci sono quelle derubricate del primo semestre 2002. Difficilissima, una cosa tremenda. Film italiano, normalmente se vedi un doppiatore non doppia mai un film italiano, però per cominciare si fa questo. Io ho fatto i porno, tu hai fatto i carabinieri, insomma è giusto in qualche modo equipararci. Esatto. Io non doppio film italiani, tu l'hai fatto, però tu non hai fatto i porno, perché non era quella mi è mancata. E non esiste ormai, da quando sei nato tu come doppiatore, ormai sono originale. Per cui è che finito, fregatura, il mercato, porca, è finito miseria. Il mercato, ma guarda, faticoso tanto quanto mamma certi mia. Film dove si combatte e basta, iperventilazione a mille, esatto, si sveniva. Senti, per cui è stato questo sì. Però, e poi da lì cresciuto, piano piano, no? Sì, sempre con Massimo ho cominciato a fare i primi personaggi a Sync. Mi è capitato poi di doppiare, stando a Leggio, insieme a colleghi ben più illustri di me, come Massimiliano Alto, e trovandomi a Leggio con loro hanno intuito, mi hanno detto: senti, perché non capiti a farti sentire? Io sempre con una vergogna che mi si consumava, stavo lì fuori dalla porta: buongiorno, ero quello dell'altro. mi hanno ascoltato, anche con loro ho cominciato a fare i primi turni di brusio, che sono andati avanti per qualche anno. Ho continuato timidamente a cercare di farmi conoscere un po' qua e un po' là, vincendo la soggezione. Io, prima di cercare di fare il doppiatore, ero da anni fan del doppiaggio, quindi sì, tu l'hai sempre amato. Andavo di fatto a chiedere lavoro ai miei idoli di sempre, e non era facile. Però piano piano, da uomo 2, dottore 3, carabiniere 4, si è passato a fare a John Smith, esatto. William Barry, eccetera, personaggi con dei nomi, esatto, come diceva il grande Maurizio, oddio, mi scordo pure il cognome, diceva: se c'è un numero, quello lo doppio io. Esatto. Si accontentava di questo. E però da lì hai camminato. Quando finisce questo blocco, che vorrei fargli allora abbiamo 5 minuti, però vorrei farglielo fare a questo punto. Eh sì, tu lo sai a memoria, perché non è scaricabile da nessuna parte. Sì. Tu sei uno dei protagonisti di una delle più grandi serie, e vorrei chiamare anche Mauro Meconi a riprenderlo, perché dobbiamo metterlo sulla nostra pagina di Facebook, che sta crescendo esponenzialmente. Ogni settimana si aggiungono 1000 like, che non sono pochi, più centinaia e migliaia di visualizzazioni. Wow. Quando ci sono dei grandi doppiatori e attori che raccontano, come Domitilla D'Amico ha fatto un esercizio di stile su come si montano le assi di legno addosso al muro. E è quella la cosa divertente, è quella. Adesso Invece il nostro amico, che è uno dei protagonisti, Edoardo Stoppacciaro, di una grande serie, come dicevo prima, che è Il Trono di Spade. Beh, tu ne sai qualcosa. Ma beh, io sono un po' Robrigante, il capo dei briganti. Ma che scherzi, Tormund. Tormund è la notte. Sì, va bene, ma quello parla 20 righe ogni episodio. Ma come tutti più o meno. Sì, è vero pure questo. La cosa più tranquilla che ha detto ultimamente sono... Questo è stato uno dei miei monologhi migliori nel Trono di Spade. Tu hai un momento invece con tanto di sottofondo, wow, della colonna sonora del Trono di Spade. Ci ascoltiamo. Tu doppi intanto nel Trono di Spade? Rob Stark, interpretato da Richard Madden. Sì, tu stato... sei Rob Stark, uno Io della famiglia Stark. Cazzo. L'ex re del nord. Hai capito? Cioè, non è che invidiamo gente qualsiasi. Questo per venire qui a Roma Sud, poi è venuto dal regno del nord. Cioè, beh, sono di Viterbo, quindi in qualche modo. È nord, è vero, tu sei viterbese. E allora, sì, signori, Rob Stark qui in diretta per voi, direttamente dalle terre fredde del nord. Edoardo Stoppacciaro, regalaci questo momento in diretta del Trono di Spade. Fa sapere a Lord Tywin che l'inverno sta arrivando per lui. 20.000 uomini del nord marciano a sud per scoprire se davvero caca oro. E queste erano forse le 20 righe di monologo che avevo io. Esatto, in questa puntata. Il massimo del monologo che si ha dentro il Trono di Spade, sì, anche sì, se sei Rob Stark. Esatto. Tocca farlo due volte perché deve durare un po' di più, no? L'ultima è cagare, hai detto? L'ultima è per scoprire se davvero caca oro. Sì, caca perché oro. Si può dire, si può dire. Si può dire. No, siamo sdoganati da Cruciani, okay, noi qui a Radio 24. Ah, va bene, cioè, sì, siamo pronti a tutto. Sì, questa è una cosa benissimo, leggera, si può cagare oro tranquillamente anche alle 2:43. Sì, è vero, poi Il Trono di Spade è bellissimo. Mancano l'ultima stagione o altre due? Altre due. Non se ne può parlare, se no ci arresta, non lo sai. Anche perché non si sa nulla. Ma noi firmiamo poi delle carte all'interno. No, lì, scherzi, lì c'è proprio il... Ci tolgono il cellulare. Lo doppiamo in bianco e nero con la scritta HBO in rilievo, con una fascia nera che passa attraverso le facce di questi. Noi ce ne accorgiamo solo quando lo fanno al cinema o in televisione, sì, che cosa è successo in quella, sì, scena. Poi lo guardi e dici, ah, vedi che bella che era sta scena. Esatto. Ah, ma io ero quello? Poi dici, perché sono bravi, siamo bravi in questo mestiere. Sì, sì, ormai bendati su una gamba sola. Esatto, e non puoi dire neanche cosa stai facendo perché ti denunciano come spoiler. Sì. Che io prima, lo spoiler per me era una macchina senza la cappotta, cioè... L'ho capito strada facendo che era così. Là, Rachele, sei contenta che abbiamo un pezzo di Il Trono di Spade? Perché lei poi sa perfettamente più di Jenna quello che ognuno di voi grande doppia, capito? Qui mi dicono già i primi messaggi, complimenti, ma uno Billy di Black Sail. Sei oh tu? Sì, come no? Sei anche Billy di Black Sail. Sì, sì, Billy Bones, il piratone... Il piratone, mamma, è fighissimo. Ti ricordi una frase del che piratone sei, che può essere... Qui fanno i ringing dei telefonini con le frasi addirittura. Sì, c'è una pausa e bisogna farlo perché ognuno se lo mette sul telefono. I nostri ascoltatori sono molto attenti. Billy di Black Sails è un po' più tosto perché lui, a differenza di Rob, parla quasi sempre per monologhi all'interno delle puntate. Sì, e c'ha delle tirate lunghissime e al momento... È difficile. Sono sempre 2 euro a riga, ricordiamo. Sì, sì, per cui sì, più per parla, carità, né meglio è. Quando io, infatti, Dio benedica Billy Bones. Poi racconteremo qual è il guadagno di un turno di doppiaggio. Sì, la gente si aspetta che. No, che noi navighiamo nell'oro. Esatto. Noi non caghiamo oro. Va bene, allora, signori, ci salutiamo soltanto per un attimo perché sapete perfettamente che Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, bentornati. 14:46, primi e 24 secondi. Edoardo Stoppacciaro direttamente dalle terre del nord. Da Viterbo. Che poi tu, di serie, adesso, bene o male, è la serie quella che porta anche il successo di un attore doppiatore. Sì, sono le serie, perché anche i grandi attori americani ormai si buttano nelle serie. Le idee, il maggior numero di idee originali adesso secondo me stanno uscendo in televisione. Sì, il cinema è tutto un reboot, remake, sequel, prequel, midquel. Esatto, adesso esce il reboot della Mummia pure, sì, ho visto, con Tom Cruise e Russell Crowe. Sì, sì, sì, sì. Che... è uscito il reboot di Ghostbusters, il reboot di Un Mercoledì, sì, da Leoni, tutto. No, quindi sono ributtano tutto. No, ributtano non è mai... non si può fare, è come fare un reboot, perché questo è un termine nuovo, questo come spoiler, di Rocky, non lo puoi fare. No, non ha senso. Forse fra 30 anni che sono dimenticato, ma non Ma c'è. Non se lo saranno dimenticato, no, fra 30 anni. Rocky no, è come Il Cacciatore, Taxi Driver, ma come fai a rifà fra 10 anni, stai parlando a me al posto di De Niro, ma non si sì può. No, ma è come dire, rifaccio un nuovo Colosseo, lo rifaccio sì. A Montemario, diverso, più moderno, più figo. No, no, il Colosseo è quello, non si può fare, già quando si ridoppiano sì. È complicato. Sentiamoci un'altra, anche Borgia tu sì, altra serie che ho amato da morire, Mark Ryder, sì ce l'ascoltiamo, abbiamo i Borgia, ascoltiamoci un Edoardo Stoppacciaro dal tempo di Sisa, al Tempio del Nord, dalle terre del Nord fino a queste altre terre molto più vicine. Prego. Fermatevi! Il primo uomo che ho ucciso era un bravo dei Colonna che mi aveva aggredito. Lo pugnalai alla gola, mi ricoprii del suo sangue e non provai niente. Anzi, quando lo uccisi mi sentii vivo. Ho strangolato una strega, le ho stretto le mani al collo fino a soffocarla perché non aveva onorato una promessa. Poi è stato il turno del figlio stupratore del cardinale Brissonnet. Almeno 3 soldati francesi hanno assaggiato la mia spada e non so quanti sono morti per il fuoco della mia artiglieria. Ho ordinato che fosse smembrato un uomo che avevo messo a marcire in una cella. Ho frustato a morte una donna incinta che non aveva altra colpa che quella di essersi invaghita di me. Ho colpito l'amante di mia sorella dritto al cuore, al cospetto del concistoro. I monaci Savonarola e Domenico, impiccati e bruciati. Al cardinale Zeno ho avvelenato il banchetto e ai miei cani ho dato in pasto il cuore di un guitto. E che Edoardo? E beh, ero svegliato male, scusa. Ma tu pensa se questo turno è alle 9 di mattina ti capita sta pappardata incazzato nero. Sai che era il primo turno questo? Il primo turno per quelle 9. Ancora. Oh mio sì. Dio. Ma sì. Niente male, ma almeno qui metti proprio alla prova la tua capacità di attore. Con i Borgia mi sono divertito come un pazzo. Certo, sia è una contraddizione in termini divertirsi con i Borgia, insomma, perché insomma, beh, no, che non facevi parte della sua famiglia. Se sei Cesare ti diverti. Ah, quello sicuro. Sono gli altri che muoiono. Esatto. Tu mi hai ricordato che pure io ho fatto Vitellozzo Vitelli. Vitellozzo, mi ricorda, non ci resta che piangere. Sì, però a me. È vero. Perché sì, ogni tanto a me qualche collega mi infila in queste parti, ma io mi dimentico. Ovviamente, però. Mamma mia, che serie, bellissima. Tu, molta girata poi dalle mie parti nel Viterbese. Ma lì anche il tempo si è fermato, è bellissimo. Sì. Ragazzi, noi abbiamo sta nazione che valorizziamola un po' di più. Ma questo è un altro discorso che fa parte di un'altra trasmissione, sì, che sì, non esatto. È assolutamente una nostra. Un altro film bellissimo del quale è impazzito Mauro Meconi, che mi ci ha chiamato di notte. Sono al cinema, ho visto Nice Guys con Russell Crowe e Ryan Gosling, bellissimo, meraviglioso, eccetera. Abbiamo scoperto che poi il Ryan Gosling, che poi non dovete confondere con Ryan Reynolds esatto. Che anche loro se lo dicono, siamo due diversi. È vero, sì. Io pure li confondo. Deadpool chi l'ha fatto? Reynolds. Lanterna Verde, Reynolds. Esatto. Per cui è riportato il successo a se stesso. Questo La La Land invece? La La Land credo sia Gosling, sì. Che non hai doppiato tu. No, l'ha fatto Max Manfredi, che è una delle sue voci storiche, diciamo. Però è giusto pure alternare, dipende pure dal film. Sì, c'è una leggerezza diversa, tu sei un po' più epico magari di lui. Però in questo film, che è comico poi, Nice Guys, comicamente drammatico. Sì, è molto sporco, diciamo, è una comicità proprio sozza, ma fatta. A me è piaciuto molto. Non devo è piaciuto molto anche a Mauro Meconi, solo a me sono rimasto un po' interdetto. Sì, è bello, no? Però come me la racconta, sai quando gli amici dicono: Dio, tu non sai, t'aspetti una cosa e poi magari ne ho. Io ho riso proprio tanto. E Marco Mete, il direttore bravissimo. Adattatore, devo dire che ha fatto un lavorone su di me, proprio battuta per battuta mi ha ricostruito per intero, perché non è un personaggio che faccio di solito. E allora ascoltiamocelo, vediamo come, ricordiamolo almeno chi l'ha visto, come l'hai fatto. Ecco il Ryan Gosling del grande, bravissimo Stoppacciaro Edoardo, prego. Si tratta di mio marito, è scomparso. Scomparso. Sono molto preoccupata, Fred non è mai stato via così a lungo. Da quanto è scomparso? Dal suo funerale. Beh, posso cominciare subito. Sei un investigatore privato. La mia è una professione complicata, ok? Piena di sfumature. Questo è sangue, tanto sangue! Tu pesti le persone e ti fai pagare? Sì. Triste, vero? Quanto vuoi per pestare la mia amica Janet? Cosa? Tu quanto hai? $30. Va bene, okay. Questa conversazione è finita. La mafia vuole allungare le mani su Los Angeles. In qualche modo mia figlia Amelia è coinvolta. Dov'è Amelia? Che succede? Cosa tipo sta venendo uno ad ammazzarci? Niente di speciale. Non voglio. Ehi, comportati da professionista. Mi dispiace. Lei è in pericolo, dobbiamo fare qualcosa. È morta. Non è morta. È morta. Non è morta. Bellissimo. Una follia. Però questo qua, sapete che ascoltare il cinema per radio è affascinante, è come vero. Un bel audiolibro, nel senso crea ancora più, è ancora più evocativo che vedere le immagini. Assolutamente, è vero, è vero. Mi piace, mi è piaciuto di più adesso Les Guys. Lo vedi? Porca miseria. Guarda qui i nostri grandissimi radioascoltatori quanto sono raffinati, a parte quelli che si lasciano andare in complimenti non gratuiti. Grazie, senso, semplici, Dio li benedica. Semplici complimenti. Cagare oro è freudiano, è un sogno che faceva Gabriel García Márquez, solo che lui sognava che la faceva in un pitale d'oro. Capito? Queste, bisogna stare attenti qui, capito amico mio? Qui porca miseria, ti fanno la citazione sulla citazione, come la battuta, la controbattuta, la battuta della battuta. Posso rivendermela? Sì, questa solamente sì, di che è tua. Che te ne importa? No, non oserei. C'è una sorpresa, mi dicono dall'altra parte del vetro, sembra una festa, trovate Rachele a fianco di Alessandro, Mauro Meconi e Alessia Navarro che mi correggono e mi danno anche delle nuove possibilità di andare avanti, prego. Solo qualche altra bollicina. Così? Oh, mon Dieu de la France, che cosa hai mangiato? Tutto a posto. È una di loro. Ah, una che sussurra ai cavalli? No. Una socialista francese? No. Ah, una acrobata volante? No. Che cos'è? Ma questi erano i puffi. No, pure tu hai fatto. Sì, no. Ero un puffo vanitoso. Oddio. Oh mon Dieu. Sei puffo vanitoso. Ero un puffo vanitoso. Questo è come dal Fabbro che è Carletto, cioè, sì. Uno fa tante cose, Rob Stark, parliamo dei Borgia, del cinema, Nice Guys, cioè, poi loro ti mettono puffo. Improvvisamente puffo vanitoso. Non farò mai una trasmissione monografica dedicata a me, perché sicuramente tirerete fuori delle cose terrificanti. Tu eri puffo vanitoso, sì. Ciao Jay, dice qualcuno di Chicago PD. Oh sì, come e no. Ciao Pino, sì, grazie. Sì, anche, è vero, anche Chicago PD, la stiamo doppiando proprio in questi giorni, la nuova stagione. Non sì, puoi sì. dire niente, lo sai, no? No, sei pazzo, non ci arrestano. Mi troncano le gambe sul posto. Ti denunciano, pure me. Quante serie hai fatto? Io ho provato a leggere l'altro giorno, perché ovviamente non posso sapere tutto. Di serie sono centinaio. Abbastanza, sì, forse qualcosa del genere, sì. Tra personaggi principali e secondari, comprimari che ogni tanto ricicciano. NCIS sì. L'hai fatto in tutte le declinazioni. NCIS Los Angeles. Non solo quello di NCIS, solo quello? Solo mi sa, credo di sì. Mm. Forse in quello storico avevo fatto qualche personaggio di puntata all'inizio. Tanti NCIS lì. Beh, sì. Ti capita di fare tre turni? Sono tre turni, devi sapere. Il doppiaggio a volte si aggiunge un quarto dalle 7:30 alle 10:30, sì. Ma è più raro. Se ti capita di doppiare, sono la mattina, i Borgia, il pomeriggio, Chicago PD e la sera. Quasi sempre. Io la chiamo la meravigliosa schizofrenia del nostro mestiere, perché la mattina sei Cesare Borgia, il pomeriggio sei Jackson Avery di Grey's Anatomy, quindi la mattina... Ah, è vero, sei anche Grey's Anatomy, è vero. Esatto, la mattina incarceri innocenti e li fai giustiziare, il pomeriggio dopo pranzo sei lì che mi passi un bisturi, infermiera, dobbiamo suturare, però la sera sei buffo vanitoso e fai... Secondo me queste cose sono sedute psicanalitiche gratuite. Sì, per noi. Ma che scherzi, assolutamente. Così dai fuori tutto quello che può. Ognuno di noi potrebbe essere tutto questo. Assolutamente. Un attore sì, lo mette verissimo. In pratica, fa salire quelle emozioni giuste e riesce ad esserlo, così non lo sarai mai nella vita quotidiana. Esatto, io dai turni dei Borgia uscivo con una serenità, una pace. Avevi ammazzato 7-8 persone. Esatto. Perché odiare quello al semaforo che esatto, si passa davanti? Esatto, li avevo ammazzati male poi, tra l'altro. Non è che dici, sai, finito, va bene, il secondo blocco è finito, mi fanno gesti. Ormai c'è un colpo di Stato, la voce che coordina non governa più. Niente, non so se può rimanere un aforisma, ma comunque. Tra pochissimo con Voice Anatomy, grazie. Voice Anatomy. Miei, di ritorno, veloci, perché stavamo scegliendo qualcosa di più giusto del Trono di Spade, perché prima è stato più rapida, è stata più lunga la presentazione che quello che hai detto, perché per male. Allora Rachele insieme ai nostri autori stanno tirando giù l'inizio, l'incipit del libro. Eh sì, così non è spoiler, l'inizio, tu non sai di cosa. Sì, ma qual è stato, lo chiedo sempre, faccio un po' come quello della mezzanotte dintorni, il tuo sliding doors? Quando è che hai capito finalmente questo sarà il mio lavoro? Guarda, io penso di non aver mai seriamente preso in considerazione altre strade. Nel senso, quando facevo teatro a Viterbo e mi è capitato di lavorare con colleghi attori più grandi di me, quando parlavo con queste persone e accennavo alla mia passione per il doppiaggio e per la recitazione in generale e per il doppiaggio, e il doppiaggio in particolare, quando è che hai capito? Ok, lo posso fare. Ok, lo posso fare probabilmente quando ho vinto il provino per Ratatouille della Pixar, Disney Pixar. Tu facevi lui. Io facevo il topo il fratello del protagonista, il topo ciccione Emil. Con questa voce sempre un po' così, sempre con la bocca piena perché mangiava in continuazione. Voleva attivare niente, belle così, avrei perso il provino, insomma. Forse sì. Sarà meno poetico, ma sinceramente dice un messaggio ben augurante. Chippo dei d'oro a tutti. Rei Vanava, questa è dell'altra puntata. Wow. Non l'altra volta che potei, che è una parolaccia detta in una lingua, non mi ricordo qual era. Alessandro, ti ricordi l'altra puntata che era chi potei? Secondo me queste cose sono sedute psicanalitiche gratuite, sì, per noi. Ma che fate, mandate delle cose dove io sbaglio? Ma siete dei pazzi? Ti rimano contro, cioè, una sono sedute psicanalitiche gratuite per noi. Perché fate queste cose ma da no, radio? Ma dai, ma è un ammutinamento. Ma è follia. Mandano gli errori in diretta di quello che ho detto poco fa. Cioè, c'è un blob istantaneo delle mie. Adesso io vado nel panico e mi blocco. No, tu stai parlando. Dovrei parlare assolutamente per intizione. Ma guardate, vorrei dare di là degli schiaffi a questi signori, ma comunque va bene. Vogliamo ascoltarci un altro momento di un'altra serie molto importante, che è Suits, di questi due avvocati. Fantastica. Suits. Avessi azzeccato, non dette tre di pronunce, era la quarta quella giusta. Va bene, ma sono molto ironico nei confronti di me stesso. Non c'è bisogno che voi mandiate delle cose per mortificarmi, perché già mi mortifico da solo. Ecco qua, no. Tu sei Patrick J. Adams. Esatto, Mike Ross, uno dei due protagonisti di questa serie fichissima. E allora, ascolta, che stagione siamo arrivati lì? Stiamo doppiando la sesta. Allora. Stiamo, perché anche tu stai doppiando la sesta. Sì, tu mi ricordi quello che sto facendo, in effetti sono dimenticato, ma qui sono il conduttore, per cui faccio un passo indietro. Ascoltiamo invece il protagonista con la voce di Edoardo Stoppacciaro. La responsabilità civile associata a un'agenzia è basata su svariati fattori, compresa... La deviazione da parte dell'agente dal suo corso, la ragionevole inferenza dell'agenzia per conto del querelante e la natura dei danni stessi. È sorprendente, ma sei davanti a un computer. E gioco a carte. Scusi, se mi vuole battere dovrà farlo in qualche altro campo. Eccolo là, questo era un momento di Suits. La prima puntata. Sto chiamando Mauro Meconi perché facciamo una diretta a Facebook e andrà anche per chi non si collega in questo momento, ovviamente, quando c'è una lettura. E allora, visto che prima il Trono di Spade era breve, perché tutti i momenti sono brevi, invece abbiamo scaricato a tua insaputa l'incipit del libro. Tu poi hai scritto un libro, un primo romanzo che fa parte di una trilogia. Sì. Mondo in fiamme. Il primo si intitola Una primavera di cenere. Poi è uscito solo questo. Per adesso solo questo. Sì. Dalla Corte Editore di Torino e stiamo. Di cosa parla? Che cos'è? Il romanzo parla di un mondo reduce da una guerra che lo ha quasi completamente distrutto. Un fantasy medievaleggiante, diciamo. E questa guerra, oltre ad averlo distrutto, ha stabilito degli equilibri politici che vedono il continente principale diviso in tre grandi regni d'uomini. I tre grandi re di questi grandi regni non si capisce bene fino a che punto stiano cercando di mantenere gli equilibri e quindi la pace, o di far scoppiare una nuova guerra. Assomiglia tantissimo a qualche realtà. Esatto, infatti la mia fonte di ispirazione è stata la realtà, anche perché in questo mondo si sta risvegliando un potere, più poteri antichi che sottendono veramente alle forze della natura e della realtà stessa, che rimetteranno al loro posto questi grandi signori, probabilmente. Poi, tu, venendo da questa grandissima esperienza a Trono di Spade e dell'Hobbit, perché anche lì hai doppiato uno dei protagonisti, ed essendo un grande amante di Tolkien, visto che Il Signore degli Anelli... Assolutamente, il mio primo grande amore letterario. Lo doppiavo mentre tu imparavi in accademia. Sì. Pensa, e poi tu sei andato a fare uno dei protagonisti dell'Hobbit. Pensa che bello il caso della vita. Fantastico. E adesso allora ci leggerai in diretta, siamo in diretta, vero Mauro? questo incipit senza averlo letto mai prima. La musica sarà quella del Trono di Spade, la voce è quella di Edoardo Sterpacciaro, e questo è l'inizio di questi grandissimi libri. Libri, perché sono una serie di libri, ok? Sì, ho sì, detto sì. Un singolare e un plurale insieme. Non lo rimettete dopo, ok? Grazie. In realtà il romanzo l'ho letto, ma tanti anni fa. Va bene. Edoardo Sterpacciaro, Il Trono di Spade. Le tenebre stavano avanzando. Meglio rientrare. Gared osservò i boschi attorno a loro farsi più oscuri. I bruti sono morti. Da quando hai paura dei morti? C'era l'accenno di un sorriso sui lineamenti di Sir Wymer Royce. Gared non raccolse. Era un uomo in età, oltre i 50, e di nobili ne aveva visti andare e venire molti. Ciò che è morto resta morto, disse. E noi non dovremmo averci niente a che fare. Che prova abbiamo che sono davvero morti? Chiese Royce a bassa voce. Will li ha visti. Come prova, a me basta. Will sapeva che prima o dopo l'avrebbero trascinato nella discussione. Aveva sperato che accadesse dopo, piuttosto che prima. Mia madre diceva che i morti non parlano, si intromise. Davvero, Will? Rispose Royce. È la stessa cosa che mi diceva la mia balia. Mai credere a quello che si sente vicino alle tette di una donna. C'è sempre da imparare, perfino dai morti. La foresta piena d'ombre rimandò echi della voce di Sir Wymer. Troppi echi, troppo forti e definiti. Ci aspetta una lunga cavalcata, insiste Gared. 8 giorni, forse 9, e sta calando la notte. Cala ogni giorno, quasi sempre a quest'ora. Sir Wymer alzò uno sguardo privo di interesse al cielo che imbruniva. Qualche problema col buio, Gared? Will vide le labbra di Gareth stringersi e la rabbia repressa a stento invadere i suoi occhi, visibili sotto lo spesso cappuccio nero del mantello. Gareth aveva passato 40 anni nei Guardiani della Notte, la maggior parte della sua vita di ragazzo, tutta la sua vita di uomo, e non era abituato a essere preso con leggerezza. Ma questa volta nel vecchio guerriero c'era qualcosa di più dell'orgoglio ferito. Una tensione nervosa che arrivava pericolosamente vicino alla paura. Will la percepiva, la sentiva. Forse perché lui stesso aveva paura. Era di guarnigione sulla barriera da 4 anni. La prima volta che l'avevano mandato sull'altro lato, tutte le antiche, sinistre storie gli erano tornate alla mente come una valanga. Aveva sentito le viscere attorcigliarsi e il sangue andare in acqua. Di seguito ne aveva riso. Era un veterano adesso, con centinaia di pattugliamenti alle spalle. Per lui non c'erano più terrori in agguato nella sterminata estensione verde scuro che quelli del sud chiamavano la foresta stregata. O perlomeno, non c'erano stati terrori fino a quella notte. C'era qualcosa di diverso quella notte, qualcosa che gli mandava brividi gelidi lungo la schiena, le tenebre, la loro densità. Erano fuori da 9 giorni e avevano cavalcato prima verso nord, poi verso nord-est, poi di nuovo verso nord, seguendo da vicino le tracce di una banda di bruti e allontanandosi sempre più dalla barriera. Ogni giorno era stato peggiore del precedente e quel giorno era peggiore di tutti. Il vento gelido che soffiava da settentrione faceva oscillare e frusciare gli alberi della foresta come se fossero dotati di una loro vitalità interna. Per l'intera giornata Will non era stato in grado di scacciare la sensazione di essere osservato da occhi implacabili, paralizzanti, carichi d'odio. Anche Gared aveva avuto la stessa sensazione e adesso Will aveva un'unica idea in mente: partire al galoppo sfrenato, tornare al più presto dietro la sicurezza della barriera. Ma non era un'idea da condividere con il comandante. Che bello. Il nord non dimentica. Che bello, bravo. Grazie, grazie. Bravo, grazie. Perché poi adesso ti abbiamo dato i fogli. Questo sì. È quello che la gente deve riuscire a capire, quant'è complicato dare, esporre in maniera così emozionale qualcosa che hai avuto in un momento prima. E questo è quello che succede in una sala buia. Per questo dico sempre, il vero doppiatore è il climax di un attore. Cioè, purtroppo è quello che penso anch'io. Qualcuno dice, vabbè, vorrei fare il doppiatore, non l'attore. Non è possibile. Non ha senso. Vorrei fare il chirurgo, non il dottore. Esatto. Okay, fai medicina e poi ne parliamo, insomma. Bravo, veramente. Grazie. Emozionante. Poi andate in diretta e c'era una serie di like, perché ormai si vive wow. di questo, no? Sì. Quanti like? Il termometro più immediato. Sono i like. Sì. Una volta non era così. Quanti dischi hai venduto? No, quante visualizzazioni. Hai fatto, hai sì, fatto. Esatto. È cambiato totalmente. Sempre tanti complimenti. Qualcuno sbaglia pure trasmissione, ci parla di Trump, vabbè, ma questo vabbè, ma ci sta, insomma. Meno male che lo spot della Fondazione Bambin Gesù, credo, non l'hanno fatto con la voce dell'esorcista. Ma che vuol dire? Mandano delle cose pazzesche. Bene, poi tu hai fatto anche altri cartoni animati, ovviamente, a parte Ratatouille. Sì, hai sì, fatto sì. Happy Feet, Madagascar. Cattivissimo me. Cattivissimo me. Chi il primo. Facevo l'antagonista. Erano due cattivi, sì, era... un cattivo protagonista che era Max doppiato Giusti. Da Max Giusti, e io facevo il suo antagonista, che era Vector, era questo nerd spietato, ma alla fine goffo, sembrava una caricatura di... oddio, come si chiama quello della Apple? Non della Apple, scusami, di Windows. Bill Gates. Sembrava una caricatura di Bill Gates. Non chiedermi cosa, tanto a me le suggeriscono dall'altra parte. Ah, per benissimo. Cui io sono bravissimo. Chiedo direttamente a loro. Chiedi direttamente dall'altra okay. parte. Meno male che non sentono quello che mi dicono. Così faccio bella figura ogni tanto. Tante saghe. Anche i Pirati dei Caraibi, quello non lo sapevo. Pelifico. Palifico, e quello era. Ah, no, qui me la prendo con gli autori. Chi l'ha scritta la biografia? Navarro? No, Mauro Meconi. Mauro Meconi mi ha scritto, io, beh, lì conosco Johnny Depp, il cattivo dell'alto. No, ma questo era fra i primissimi turni che facevo, ancora per mi ricordo con piccoli personaggi. Era, sì, però... ma guarda, lui parlava a sync soltanto nel secondo film, c'era anche nel terzo, ma era nella massa, e nel secondo film diceva: "Il capitano affonda con la sua nave." Fine. Benissimo. Vedete come modula bene la voce, ed è giovanissimo. Per cui è palifico. Palifico. Dai. Ok, qualcuno ci dice giustamente: che bello stare con voi, sembra di stare con un gruppo di amici al bar, ed è fantastico, è vero, è un po' così. Mi sono ricordato che potevo, ovviamente nell'altra puntata con Pino Amendola, che aveva girato questo film in Svezia, e io non ci credevo, e siamo riusciti a scaricarlo in internet, e lui parlava svedese, italiano, inglese, non si sa, e c'era fantastico. Questa qui che era una parolaccia, però detta chi potei, sembra un augurio, detto così, una cosa bellissima. Che bello, c'è un suono. Auguri a tutti. Parlavamo di questo romanzo, è molto interessante il fatto che tu sia anche uno scrittore. Ma... sì, è un'altra grande passione che ho da sempre, da quando più o meno da quando ho imparato a innamorarmi delle storie che leggevo. Eh sì, l'hai sintetizzata in tutto l'amore della trilogia del Signore degli Anelli, in sì. tutta l'amore sì, per sì. il Trono di Spade l'hai... E infatti il mio... Hai fatto il tuo microcosmo... Il mio ideale sarebbe trovare un punto d'incontro fra il fango, la concretezza, la disperazione di Martin e i sogni mistici e più fiabeschi di Tolkien. Fatti anche un audiolibro, visto che tu puoi farlo con la tua voce, no? Magari. Guarda, io sulla pagina Facebook della trilogia ho pubblicato un breve estratto audio dal primo capitolo e... ha riscosso un successo che sinceramente non mi aspettavo. Pensavo, no, funziona, devo dire, questo faccio un plauso a quelli che fanno gli audiolibri. Io ho rapporti con la Emons, non è pubblicità ovviamente, sono molto attenti, anche perché per tante categorie di impossibilitati a leggere, assolutamente come sì. i nostri amici non vedenti, con i quali abbiamo parlato spesso e volentieri, è una grandissima possibilità di regalare loro un'emozione. È verissimo. Evocare un libro attraverso le parole è la cosa più bella. È arrivato il nostro... secondo ospite, che è un grande amico, ma non solo mio tantissimo, ma di tutti voi forse, qualcosina in più, si sta abbeverando, non vuole entrare prima che finiamo questo, va bene, lasciatelo abbeverare, non svelerò altro. Cosa stai doppiando? Quante cose stai? Ma guarda, in questo momento sto doppiando la sesta stagione di Suits, sto andando avanti con NCIS Los Angeles, Hawaii Five-O. Ah, è vero, anche a Wi-Fi. Oh, fantastico. Certo. Chicago PD, quindi poliziotti a destra e a sinistra, proprio come se piovesse. Stiamo per riprendere con Le regole del delitto perfetto. Bellissimo. Tra poco dovrebbe ripartire anche Grey's Anatomy. Come ti metti a sto punto, visto che i turni al giorno disponibili sono soltanto tre, forse quattro? Non lo so. Guarda, non me lo chiedere, perché ho un'ansia a pensarci adesso. Senti, io vorrei chiederti di rimanere nel prossimo blocco. Certo. Ti saluto per leggere l'inizio di una canzone del nostro amico che seguirà. È una canzone antica, ma per me è un ricordo affettuoso nei confronti di questa persona che è vivente. È un onore. Perché normalmente queste cose si fanno quando le persone non ci sono più. E io ricordo bello che lo racconterò quando tu leggerai le parole di questa canzone. Onoratissimo. Che è difficilissimo. Recitare le canzoni è veramente quasi impossibile. perché fanno, certe volte fanno rima. Sì, questa sì. Non mi ricordo se fa rima, so solo che è emozionante, è molto molto bella. Noi ci proviamo. E dai. Dai. No, io ho fatto Non restare chiuso qui pensiero, se dopo quella si può fare tutto, dai. Senti, teatro? Teatro per il momento niente, sono preso in un progetto filmico. Stiamo finendo la sceneggiatura e a marzo faremo una campagna di crowdfunding e tra aprile e giugno inizieremo le riprese di un film sui Ghostbusters ambientato a Roma, che si intitola Real. Ok, lo doppi solo? No, ci recito. Lo so. Che scherzi. E basta, c'abbiamo pure un corpo, santa miseria. Dai, sì. Va bene, resta qui, ti saluterò come si conviene, mentre tu farai l'introduzione dell'ospite che seguirà la nostra trasmissione. Allora, a tra pochissimo con Voice Anatomy, Edoardo Stoppacciaro è il nostro ospite misterioso. Tra poco. Grazie. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 15-16 minuti 45 secondi, io... Spero che ci siano le parole. Rachele, hai portato le parole di quella canzone che ti ho chiesto? Rachele? Quella canzone che ti ho detto di scaricare, che lui doveva leggere le parole? Allora, non lo presento al nuovo ospite finché lui non mi legge quelle parole. Sta arrivando, però nel frattempo... Ma io devo fare la voce impostata adesso? Tu ce l'hai già così, sta buono. Tu c'hai una vocetta da castrato. Io vi ascoltavo adesso in macchina. Mm-hmm. Ma porca miseria, porca miseria. No, si può dire tutto. Noi siamo sdoganati da Cruciani, lo dico sempre qui. No, ma avete la poesia nelle corde vocali. Grazie. Poi detto insomma credo, questo sì, signore. Io ma non sto scherzando. Lo so che sei serio. Siccome avevo abbastanza fretta, scusate, perché vengo da ieri sera, eravamo in scena. Esatto, tu fra un po' te butterai, ma ne parleremo vabbè, sicuramente. Hai visto, non hai sentito come ha fatto il Trono di Spade la lettura dell'incipit? Cioè, sembrava di essere dentro al film. Esatto, è quello. Grazie tu infinito. Quando fai il tuo mestiere ci fai stiamo facendo gli scambi di ma ce lo dicono anche loro qui. Ti dico, era ascoltare la poesia in radio. Grazie. E poi qui si può fare, è bellissimo, che sì. C'è tutto il tempo, la gente è attenta, nonostante sia campionato, tu non hai problemi di sofferenza, io ho già dato ieri, tu non hai problemi, ti piace vincere facile a te. Il vantaggio quello che ha detto. Buono, sta buono. Allora, metti un altro sottofondo rispetto alla musica che poi però la ascoltiamo. Allora, questa qui è non so di quanti anni fa, so soltanto che eravamo dentro una macchina a Modena, pioveva, eravamo io, Ciufoli, Roberto e questo signore che sta al mio fianco. Lui ci portò questa registrazione tratta da questo primo album, la canzone già ha fatto breccia la prima, questa era una lenta. E io ricordo questa, era una cosa romantica, cioè eravamo tre etero convinti comunque, cioè nel senso, con tutto rispetto per carità, però io ho questo ricordo bellissimo di questa serata fredda, piovosa a Modena e questo amico che ci ha portato questo stereo 4, questa cassetta che non si usa già più. E allora vai. Quanto tempo è che sono per la strada, viaggiando nella notte e non fermarsi mai? Accendo anche la radio, ridiamoci un po' su. La notte è ancora lunga, vuoi guidare tu? Ti ricordi o no tutte quelle donne? Aspettami che arrivo! Ti ricordi o no tutte quelle note suonate ad un sorriso? Ehi là, come va? La musica stanotte se ne va lontano. Ehi là, come va? Comunque non va male, e domani, chi lo sa? La notte è già finita e il sole viene su. Fermiamoci un momento. Non ne posso più. Entriamo in questo bar a prendere un caffè. Questa sì che è vita. Ma che vita è? Ti ricordi o no tutte quelle donne? Aspettami che arrivo. Ti ricordi o no tutte quelle note suonate ad un sorriso? Ehi là, come va? La musica stanotte se ne va lontano. Ehi là, come va? Comunque non va male. E domani chi lo sa? E domani chi lo sa? Ehi là, come va? La musica stanotte se ne va lontano. Ehi là, come va? Comunque non va male. E domani, chi lo sa? Quanto tempo è che sono per la strada, viaggiando nella notte e non fermarsi mai. Accendo anche la radio, ridiamoci un po' su, la notte è ancora lunga, vuoi guidare tu? Ti ricordi o no? Tutte quelle donne, aspettami che arrivo, ti ricordi o no? Tutte quelle note suonate ad un sorriso. E là, come va? La musica stanotte se ne va lontano. E là, come va? Comunque non va male, e domani chi lo sa? Beh, è bello, devo dire che ha detto una cosa, il mio amico qui di fronte è Paolo Belli, ovviamente, l'avete già scritto nei vostri messaggi. Buon pomeriggio, devo dire, meno male che non è televisione, altrimenti uno si sarebbe soffermato sul tuo sguardo, sulla tua commozione e sulla tua sincerità. E sto parlando io perché ti sto dando il tempo di recuperare. Perché la lettura che ha fatto Edoardo è stata bellissima. E ha raccontato, credo, un momento importante della tua vita, no Paolo? Io di questa grande amicizia che è nata praticamente allora, laggiù, lassù, anzi eravamo lassù. Allora, non pensavo, ho sempre dichiarato di non essere un poeta, ma ho sempre dichiarato di essere ammirato dai vari Giorgio Gaber, Battiato, e De André, eccetera. Però sono consapevole di essere un cantante del ritmo, non un cantante, appunto. Beh, un poeta. Hai portato delle grandi novità. Vabbè, insomma, sta di fatto che comunque ne è valsa proprio la pena venire qua oggi, perché per pochi minuti mi è sembrato di essere un poeta, ma tutto questo grazie a Edoardo. Grazie a te che hai avuto questa idea. Poi sono onoratissimo. No, adesso sei qua, sembra che ci stiamo facendo. La gente ha ascoltato, per cui sa perfettamente giudicare senza. Uno quando scrive tante volte, perlomeno io, quando scrivo quello che c'ho dentro allo stomaco, e raramente vado a correggere. E faccio male, perché poi invece quando si scrive uno penso che dovrebbe ricordare che tutto ciò che fai poi quando viene messo nero su bianco oppure viene inciso poi rimane nel corso allora quindi sarebbe bene, meglio pensarci tante volte. Però sono fatto così, e poi quando vado a cercare di correggermi sento sempre che la cosa migliore era quello che avevo fatto di getto. Beh, questo momento mi avete fatto capire che c'è stato un momento nella mia vita che per 3 minuti sono stato un poeta, perché letto così sembrava veramente una poesia. Noi abbiamo avuto anche dei poeti, perché sai, in questa trasmissione decliniamo la voce in tutte le sue possibilità, e vengono vocologi, etnomusicologi, medici che curano la voce oppure che risolvono problemi, eccetera eccetera. Hai voluto rovinare tutto il pomeriggio, tanto pomeriggio. Ci avrei gioie da altre parti oggi pomeriggio, tranquillo. Meno male siamo per radio, non vedono i gesti scaramantici. Esatto. No, però vedi, voglio dire questo, sono venuti dei poeti e le loro poesie sono state lette da persone che fanno questo di mestiere, e anche loro hanno avuto questa reazione, nel senso che un poeta è difficile che sappia declinare con la sua voce la poesia. Un cantante sì, un cantautore riesce a interpretare quella canzone, come tu hai fatto con questa e tantissime altre, nel modo giusto. Magari non si rende conto che letta esprime qualcosa di più, soprattutto quando non c'è cuore, amore, dolore e queste rime facili. L'hai messa giù anche bene, nel senso che tu hai raccontato famosa notte a Modena, di tre amici. Proprio con la A maiuscola, no, amici, non c'è bisogno, la classica frase, non c'è bisogno di vedersi mille volte. Esatto. L'altro giorno quando tu mi hai detto vieni, ma certo vengo, poi dopo quando ho realizzato che oggi venivo dalla PS teatrale, che avrei oggi devo prendere oggi ho preso casa a Roma, perché poi fatalità anche lo spettacolo, e non veniva qui per era anche dimenticato, dico poi c'è uno spettacolo di un martedì a Roma. Santa miseria. Insomma, è stato per tutti una... questi motivi. E, però per un amico si fa. Sì, poi oltretutto perché tu sei stato carino a dire: ma perché non vieni ospite? Così parliamo. Cioè, tutto... quando poi realizzi che vieni qua e parli di quella di quando si è instaurata questa amicizia. Sì, sono tanti anni. E poi dentro si pioveva. C'era un freddo cane, esatto. E ascoltavi questa musica. Perché a un amico gli fai sentire delle cose. Prima perché esco, hai capito? No, eh? Io mi sono innamorato di lui, ho cercato di amare, lui era fidanzato. E allora, grazie. Chiudiamo questa parete. Okay. La cosa bella quando si dice nell'amicizia o anche come genitore, non c'è bisogno della quantità, ma della qualità. Assolutamente. Ogni volta abbiamo alzato il telefono, dicevo: oh, Paolo, siamo con la premiata ditta, stiamo facendo Peter Pan, vieni a fare Capitan Uncino, siamo a Gardaland. Lui arrivava, sì, certo. Si vestiva da Capitan Uncino e facevamo questi spettacoli bellissimi. Fantastica. E poi televisivi, tra l'altro, che andavano pure molto bene. Ma era tra l'altro con la casa discografica, non si fanno queste cose perché poi ci sono tutti. Sì, è vero. Ma io, insomma, ma chi gli amici ti chiamano, quindi già secondo me è un buon motivo per dire di sì. Assolutamente. E poi vai, io sono sempre stato e sono. Non solo diventato loro amico, ma sono sempre stato un loro estimatore. E noi anche. Ho sempre avuto questa grandissima velleità di fare anche un pochino l'attore. Cioè, mi danno l'opportunità di farlo, vado e facevo il cialtrone. Abbiamo fatto fare qualsiasi cosa. Quando la casa di Scucca era venuta a sapere questo, non voleva dare la liberatoria. Ma andate a quel paese, mi sono divertito. Addirittura. Sì, succede. Ma i cantanti sono un po' più curati e un po' più attenzionati. Allora, carissimo Stoppacciaro, adesso rimango un po' col nostro amico. Di certo. Altro, datemi i risultati del primo tempo della squadra del cuore di Paolo, che è una squadra che non ha problemi, secondo me. Ancora, mamma mia! Guarda, dall'altra parte c'è una trasmissione, va dopo di noi, molto importante, con Pardo, eccetera, e l'amico Capuano, che io lo chiamo mai una gioia, perché ogni volta mi dà i risultati della mia squadra, non c'è mai una gioia. Ci dicono: ma tu non la perdi mai la voce allo stadio? Grazie, insegnano mai, per cui quando grido io, per cui non è un problema. Edoardo Stoppacciaro, grazie della tua presenza, grazie delle emozioni che ci hai regalato. Volevo farti leggere un'altra canzone di Paolo per far rendere no, conto. No, guarda, basta così. Io ti ringrazio, posso contraccambiare invitandoti a teatro? Sì, però, con immenso piacere. Però con una promessa: se ti piace, ok, se non ti piace fingi di che ti sia piaciuto. Anzi, alzati e recita tutto. Ehi là, come va? Che no, ci stanno chiedendo con il titolo. Con la raccomandazione: guai a te se parli perché poi crolla tutto. Se lo vedi Paolo sembra il pilone della squadra, è magro ma c'ha il baricentro, non lo butti giù. Se vieni mi faresti un grosso regalo. Lui mi ha promesso che viene. Il teatro è il teatro greco. Esatto, dall'1 al 5 qui, cioè, quindi da mercoledì a domenica dall'1 al 5 teatro febbraio, greco a Roma, ovviamente a Roma, sembra esatto. Taormina che straffa qui. Se vieni, naturalmente invitiamo tutti gli ascoltatori, quello sicuramente. Vieni, con la tua fidanzata o il tuo fidanzato, non so, non abbiamo problemi con tua moglie, non abbiamo. Volentieri, grazie mille, grazie a te, onoratissimo, grazie davvero. Edoardo, Paolo resta qui, a tra pochissimo. Voice Anatomy e Paolo Belli. Voice Anatomy. Sia lodata la musica di Paolo Belli, l'ho suonata tantissimo in radio a Circuito Marconi. Grande Paolo Belli, un cognome che lo racconta perfettamente. Va bene, dai! Bellissimo. Paolo Belli, benvenuto. Grazie. Sei più tranquillo? Sì, ma con te sono. Devo sempre stare attento perché dagli amici non mi guardi Dio, che no, dagli amici guardi. No, ma perché... io valorizzo. Lo so, non svalorizzo. Però sei. Allora, per dirvi, vi racconto un po' il sentimento che ho verso Pino. Premesso quello che ho detto prima, che è vero che la casa discografica non voleva, però esatto. Io faccio poi quello che mi sento, perché poi siamo dei privilegiati e lo dobbiamo difendere il nostro privilegio, cioè dobbiamo fare quello che ci piace, perché sennò diventiamo schiavi, no? Esatto. Mi ricordo una volta mi dissero: guarda, c'è un programma da fare in Rai e vorremmo che tu lo facessi con Pino. Io non sono neanche stato lì a chiedere quanto si prende, quando si fa, chi c'è, chi non c'è. E credimi, è stato... Cioè, ci sono delle cose che quando uno nella vita sta bene... Si sente... No. No. Sì, sì, sì. La telecronaca. Vabbè, non manco la guarda. No, no, infatti. Sono proprio un privilegiato, proprio in questo. È sempre molto difficile spiegarlo, e quando la gente poi ti scrivono certe cose così, capisci che allora alla fine la schiettezza, la sincerità e anche assumersi certe responsabilità, come abbiamo fatto, poi come ho fatto, sì, vado a fare la cosa con Pino, esatto, senza sapere. Perché io, come se mi dicessero: vuoi cantare la canzone di Paolo Belli? No, voglio manco sentire. Sì, certo, capito, ti fidi. E queste cose qua, secondo me, alla fine la gente arriva, perché... Però è più facile che tu faccia l'attore con me che io faccia il cantante con te. Ma non ti credo. Se c'è una voce narrante all'entrata, sicuramente sì. Ma sarebbe un'idea. Quello sicuramente, ma dobbiamo lavorare insieme. Ma io ti ho visto lavorare, non fare il modesto. Che tu sei bravo. La signora Carlucci, che tu conosci perfettamente, sono anni che mi chiede di partecipare, lo so. Ma io ho un tendine d'Achille, che non è il mio, ognuno dice, che si sta staccando da qualche anno. Tu sono anni che sbagli a dire di no. No, non dico no perché faccio il sofisticato, perché è un talent divertente, ironico, non è l'isola, non è quelle cose che ti rimettono in discussione, dove tu c'hai dei problemi fisici, eccetera, oppure devi manifestare per le tue morroie, cioè non lo capisco, è una cosa che non concepisco. Posso dire, ce l'ho avuto anch'io, mi sono operato, e ti umanizza e ti rende uguale agli altri. Un conto è quello, un conto falle vedere. Cioè, non è giusto, non reputo. Quel talent lì è divertente, perché tanto fai una cosa che non sei. Cioè, non sono un ballerino, la gente lo sa, per cui fa il tifo per te in qualche modo, ti devi rendere simpatico, devi fare una gara come ho fatto a tale e quale show. Io volevo arrivare ultimo, allora il 5 io me lo prendevo sempre, anche se magari qualche volta ero più da 6 o da 7, però era divertente prendersi in giro. Invece c'è gente che invece vuole vincere, per carità, se deve nella però, vita, certo. De Gubertin, io non è che lo amo profondamente, l'importante certe volte non è partecipare, l'importante è vincere o sapere accettare la sconfitta. Da quel punto di vista mi piacerebbe molto, ma c'ho veramente questo tendine da anni, ormai sono 3-4 anni che non gioco più neanche a pallone. Tu continui a giocare al pallone? Faccio la palla io. Sì. Io non posso più, e sai quanto amo il calcio, perché si può staccare da un momento all'altro. E l'operazione, però, sono 3 mesi, rieducazione, mia moglie non mi porta al parco, già non mi cambia l'assorbente, insomma tutte queste cose, il pannolone, c'ha già un figlio, per cui allora evito di fare tutto questo, per però lo farò, tanto andrà avanti. Ci sarà anche quest'anno. Dai, ma non è come la... Me lo auguro. Ma sicuramente lo sì. Auguro. Tu sei del 62. Sì. Nasci a? Formigine. Formigine. È un paesino vicinissimo a Maranello, quindi praticamente sei nato con il rombo della Ferrari dentro le orecchie. E infatti la tua voce assomiglia al rombo della Ferrari. Ah, sì. Assolutamente sì. Grazie. E... juventinissimo, perché dalle nostre parti praticamente sono nasce, ti avvolgono subito in una bandiera bianconera. Bianconera, beh, ma è giusto, perché in quelle zone magari non c'è la squadra che sta in Serie A, per cui puoi accettarla. Io purtroppo ce l'avevo, forse l'unico anno di Serie A ho scelto di essere della Lazio. Ma va là. No, ero piccolo, per cui. E poi niente, nasco lì, ho studiato, ho fatto tutte le scuole lì. Sognavo da bambino di diventare quello che sono diventato, non so se sono capace di farlo, però lo sono diventato, cioè sognavo di fare arte, di fare il cantante. E quello stai facendo. Mario da Rimini mi dice: ciao Paolo, ciao. La canzone sulla rosa che canti a teatro vorrei dedicarla alla mia amorosa, potresti accennarla ora? Qual è la canzone sulla rosa? Come fa a saperlo? Perché di Rimini sarà venuto a vedere uno spettacolo, forse, non lo so, vabbè, comunque pensa, no, come sempre poi strana l'arte, è tutta, è dura 1 ora e 50 la pièce teatrale, per il titolo, Paolo? Pur di fare musica, vorrei. Per 1 ora e 47 facciamo i cialtroni. Giochiamo con la musica, quindi. Beh, i goliardi professionisti, che non piace, che non è cialtroni. Okay. Cioè, quelli come dicono a noi: sembrate che state parlando al bar delle cose vostre, ci fa piacere partecipare a questa riunione goliardica fra amici. Però quella ti ci ringrazio stanno anche... dei professionisti. Bravo, hai ragione, perché sono dei musicisti straordinari. Cialtroni, di chi c'è il libro che suona qualcosa in platea? Okay. Hai ragione. Però hai ragione. Non è così. Però guarda caso, rimane impressa tutta questa canzone. Che naturalmente, come tu ben sai, e siccome nella pièce teatrale raccontiamo tutte le disavventure che succede. Intanto a fare. Voglio trovarla, perché c'è. Com'è il titolo esatto, Paolo? Ti regalo una rosa. Ti regalo ma una non, rosa. Guarda, se devo essere sincero, credo che ci sia solo su Vimeo. credo che qualcuno l'abbia postato su Vimeo. E insomma, guarda caso, la gente mi chiede sempre che è il momento più intimo, è il momento dove si dice: guardate, che pur di fare musica succede questo, questo e questo, ma succede anche questo. Però perché esce fuori la tua parte, cioè esce fuori Paolo Belli quotidiano, esce fuori il Paolo Belli che sta a dici casa. Che sia per quello? Ma certo, quando la gente riconosce in un attore, in un cantante, in una persona lontana da te, perché tu sei magari impiegato, con tutto rispetto, faccio il ristoratore, faccio un'altra cosa, le mie emozioni le metto nel piatto tutti i giorni, eccetera. Di un attore uno si aspetta, di un cantante, che viva in quell'iperuranio dove canta e poi scompare. Non ha problemi, non va de corpo, non ha l'influenza, non gli muore nessuno intorno, ha una vita così. Quando invece riconoscono in quell'attore, in quella la persona, l'uomo o la donna che sia, e allora si sentono vicini. Come il momento che ci hai regalato prima di commozione reale, quello è un momento quando uno mostra le proprie debolezze, quando soprattutto se sei una persona vicino agli altri, tridimensionale, eccetera, è il momento che la gente ti ama di più, perché si riconosce, perché si specchia. Una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita è venire qua oggi. No, ma è così. È stato proprio una, ma proprio... è così, Paolo. Cioè, ti ringrazio. Ma sì, cioè, io ho amato all'inizio il cantante e l'amico sono nati insieme, perché Ladri di biciclette nasceva in quel momento, la premiata ditta nasceva lì, eccetera. Per cui io ho conosciuto l'amico e il cantante, il professionista, ma sono diventato prima amico. Ma nello stesso momento amavo quello che scrivevi, amo quello che fai. Hai sempre fatto un grande ironia. Tu sì, riesci a fare la grande band di swing, di funk, eccetera, e poi fai il goliardico in televisione con la canzoncina e non ti preoccupa tutto questo. Hai parlato prima, ti ascoltavo in macchina quando hai detto parlavi dell'autoironia, no? Insomma, io credo che sia la cosa fondamentale. Ma che ci salva. È inutile dire, riconoscere per primi i propri difetti significa farli apprezzare agli altri, nel senso, ok, io lo so che sto combinato così. Cioè, io per esempio sono uno che chiacchiera non solo nel sonno, no? Per cui dirò scusate se sono molto silenzioso, è ovviamente il contrario. O Ciufoli che dice mi metto un asciugamano in testa, sennò vi rovino con la luce che rifrange sulla mia capa senza niente, o ciò che ha capelli postdatati. Questo è l'ironia, sta tutta lì. Abbiamo trovato il pezzo? Sì. Hanno tu. Ecco. L'ho raccolta per strada. Ricordo che era sola, non ricordo com'era vestita, se l'annaffi d'estate e la riscaldi d'inverno, se ogni giorno ne avrai cura, otterrai il valore della vita. Ai, ai, ai, ai, amore, è calore, ti toglierà la solitudine, ti regalerà il profumo del mare. Ai, ai, ai, ai, amore. Sono... Se volete sentirla tutta dovete andare al Teatro Greco da mercoledì qui a Roma. Permettimi di dire che il merito di questa canzone non è proprio tutto mio, nel senso, questa è una canzone che vinse il Latin Grammy di Juan Luis Guerra, che è uno dei più grandi artisti sudamericani, latinoamericani, e io insomma, ho fatto un po' il test, ho rimesso a posto tutto quanto. Ci sta, sì, hai reso famosa una canzone che prima non si conosceva. Non conosceva nessuno e sta avendo un successo strepitoso, tant'è vero che stiamo pensando anche di incidere il nuovo disco, perché me lo stanno chiedendo tantissime persone e andrà sicuramente dentro anche questo brano che sta diventando... è un po' come... ti ricordi Signorina Mambo? Baby, sì. Ti amo. È diventato un classico della musica italiana, non è mai stato trasmesso da nessuna esatto. radio. Cioè, è una roba, cioè non è stato un singolo. Perché poi la forza della parola. Esatto. Tutto lì, tu puoi mettere mille manifesti per Roma. Ma se la gente non dice, oh, vai a vedere Paolo Belli, sta a teatro, sbrigati. Allora vai, guardati quel film e vai. Non è perché hai visto il manifesto che lo vai a vedere. È verissimo. Quindi, insomma, sta avendo questa grande risonanza, questo brano. E appunto ci sta dando anche grande soddisfazione, perché è una delle cose che dicono alle persone: vai a vedere in teatro, perché esatto, perché c'è quel pezzo. Magari non sai quanti film tu vai a rivedere per quella scena. Bravissimo. Cioè, c'è Il Cacciatore, dura 3 ore e 45, ma tu lo vai a vedere quando si mettono colpo solo. Questo, hai detto bene, il passaparola è la cosa più pensa, non so se posso dilungarmi. si narra che il brano Veramente di Mario Venuti, sai, veramente, allora quel brano lì non lo voleva, a lui fece il giro delle sette chiese, cioè di tutte le case discografiche, nessuno disse di sì. No, grazie. Poi lo incise e dopo due anni c'è stato uno che in una radio ha detto: ma sì, l'ho cominciato a trasmettere. Perché? Perché il brano era forte. Ma succede questo. Il signor Silvestre Stallone ha girato non sai quanti anni con la sceneggiatura di questo pugile dilettante che ha la possibilità di vincere il campionato del mondo. Anni! Nel frattempo lui girava pure dei soft porno per pagarsi la vita, ma aveva già Rocky in mano. Poi finalmente ha trovato la United e ha detto sì, ok, ma non fai tu la regia. E l'ha fatta un altro grandissimo, John Avildsen, che ha vinto poi miglior film. E il passaparola ha fatto tutto il resto. E tuttora guardiamo Rocky quando c'è Rocky. Il successo c'ha tanti padri, l'insuccesso è orfano, si dice. No, sono tutti pronti dopo. Oggi sono a scuola. Oggi è filosofia. Oggi sono a scuola. Ah beh, oggi è filosofia vera. Sì, dobbiamo... Che c'è? La pausa lunga adesso? Del TG? No, ancora no. E allora, a tra pochissimo, Voice Anatomy, ovviamente, Paolo Belli. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, come promesso, rapidissimi. Paolo Belli sempre al mio fianco. Apriamo con il primo tormentone a proposito di cose che fanno poi successo, il passaparola, insomma, Ladri di biciclette è stato lo startup della tua carriera, e questa canzone che è, cioè, bellissima, con una voce invidiabile poi all'inizio. Eccolo, arriva. No, ci vuole ancora un po'. Quanto? Perché a quei tempi si poteva anche permettersi di fare l'intro, di fare l'assolo. Fino a che non cominci a parlare te stesso, parla te stesso. Era veramente una goduria fare musica, perché ti poteva permettere di fare veramente musica. Ora vi racconto una storia. Beh, di eroi senza gloria. La conosco. Eh sì. Anche questa fa parte 94, vero? Beh, sono passati. No, 89. 89. Sì. 89. È vero, 89, hai ragione. Questa, hai ragione. Anche questa fa parte dello spettacolo, 89, e devi sapere che la gente è abituata a vedermi sempre con una grande big band. Quando facciamo questo brano qua, lo facciamo in duo. Io suono il contrabbasso e c'è il chitarrista che suona. Che la fa da un plugget? Ma perché succede? Non ti posso raccontare. È figo. No, tra l'altro, attenzione però, che io suono il contrabbasso e con me suona il chitarrista che è sordo. Questo il Cialtroni di prima era, no? Eh sì. Il chitarrista è sordo. Sordo. Questo è bellissimo, uno lo fa col sorriso, allora, sembra che manca di rispetto a qualche anzi stai scena con te. Beethoven? Sì. Ti scandalizzi perché sapere che Beethoven era sordo? Sordo, no. Per carità. Allora, ma guarda, è tutta una storia. Si vuole che cieco, dire che... per carità. Appunto, Paolo Belli è grasso, sai quante cose ci sono? Sì. Disgrazie, però non si fa discriminazioni, anzi, no, cioè, è meraviglioso sentire bellissima. Un chitarrista sordo che suona. Ma tu un po' lo presenti, lo dici questa cosa, perché è bellissimo. Certo. Lui è nato sordo o lo è divenuto? Non ti devo dire niente, se no svegliamo tutto. Beh, ti posso dire che durante... Comunque persona grandissima e ironica, perché è una persona che poi si presenta in quel modo, chitarrista, e deve essere pure molto bravo, perché altrimenti se non sarebbe stato su un palco con te. La sezione poi succede che arrivano quattro gemelli e non si sopportano l'un l'altro e non suonano mai assieme. Cioè... ci sono quattro gemelli, ma guarda, è una storia molto strana, sono riuscito a trovare dei musicisti eppure strani. Tu da quel posto di Muccioli sei uscito bene, sai, cioè non è, mi ricordo che eri cioè a posto, ma tu lo sai scherzando, che tu lo sai che è una pièce teatrale, quindi sì, può succedere, certo, di tutto, il contrario di tutto, no? Quindi è da vedere. Qualcuno mi dice di cantare la canzone della Rosa, sempre Mario mi dice di cantarla in varie lingue, farebbe un successone, addirittura un esercizio di stile, cioè un album, un EP soltanto con questa canzone della Rosa in varie lingue. Intanto facciamo italiano. In italiano. Facciamo poi, in italiano. È un'idea, ma intanto partiamo da qua. Ti chiede pure chi è il tuo doppiatore preferito, ma è ovvio. Sono ma io, certo, no? Sei tu, è certo, chiaro. E non dico in quali film. Esatto, no, i primi di 35 anni fa. Quelli dicevi. Quelli a luce rossa. No, sono tanti quelli bravi, tantissimi. Posso ricordare Sorrentino. Certo, Claudio Sorrentino, e che dobbiamo poi avere Giuliani prima. Perché Bruce doppia Brothers, il mio attore preferito. Che è Dan Aykroyd. John Belushi. John Belushi, però dentro c'è Dan Aykroyd, con il quale che tu hai suonato con lui. Allora, faccio lo sbruffone. In questo momento faccio lo sbruffone. Fallo. È successo nella mia meravigliosa carriera, che cioè non è bisogno che uno debba vincere l'Oscar, no? Per avere una carriera, no, o il Grammy. Esatto, ho avuto tu una fortuna. I ghilli più che i Grammy. La pagherò. Lo signora, so. La... signora, questa se la segni, perché poi sto parlando a sua moglie. Certamente. Stavo dicendo che la carriera è stata la mia, è una carriera meravigliosa, perché questi 28 anni ho avuto la possibilità di collaborare con Iannacci, Vasco Rossi, Billy Preston, Vasco Rossi, insomma, Enzo Iannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Le Red Ronnie, Paolo Gioia, la Jalapas, Ben Mogol, Avion Travel, PFM, Mario Lavezzi. Ah, vedo che ti sei informato. Beh, no, c'ho l'autrice. Insomma, gli autori ho avuto forti. Anche la fortuna, naturalmente io nasco con questa grandissima ammirazione per Fred Buscaglione, per Carosone, per Iannacci, eccetera, e naturalmente per i Blues Brothers. Bene, un giorno mi chiama Fabio Fazio, era il primo aprile. Mi chiama e dice: guarda, perché io appunto, come hai detto tu, cantai con Billy Preston e con Sam Moore. Si narra che È bellissimo. Si narra la leggenda metropolitana che, e quando loro tornarono in America, parlarono e dissero: abbiamo cantato con un ragazzo italiano che ci ricorda molto John Belushi. Questa è la leggenda. Sta di fatto che Fazio mi chiama e mi dice: guarda che Dan Aykroyd tornerà in Italia per presentare il film Blues Brothers 2000 e si è pensato di fare, ha voluto fare con te la presentazione, vuole fare una presentazione del film in maniera molto strana, spettacolare. Ti va di fare un concerto al Big Mama di Roma e lui verrà a cantare. No, gli ha detto no, no. Aspetta, io chiaramente premessa, era il periodo che per quanto mi riguarda era molto buia la faccenda, era sai che un ho momento avuto, di passaggio, sì, esatto, un momento di passaggio importante. Mi piace di passaggio, no, di è passaggio. Proprio un momento di crisi, ma vera. Un momento decadente, esatto. Decadente. È il che ti puoi immaginare, tu lo sai che noi artisti basta un niente per diventare eroi, un niente per diventare esatto, niente delle pippe assolute. Esatto. Insomma, sta di fatto che mentre sono lì che stappo lo spumante dicendo a mia moglie: ma lo sai, così così, lei mi fa: che giorno è oggi? È il primo d'aprile. Okay. Ho richiamato Fazio e ho detto: ma Fabio, ma proprio a me mi dovevi fare, cioè sto vivendo un momento così importante, difficile. Difficile. E vabbè, sta di fatto che invece era tutto vero. Non era un pesce d'aprile. Non era un pesce d'aprile e praticamente quel giorno lì lui scese le scale, e salì sul palco e invece di fare tre pezzi abbiamo fatto un'ora assieme. Tu e ma la cosa più importante, l'hai ripresa, scusami, la ripresa per tre minuti, poi hanno staccato e c'è tutto invece l'ora che noi l'abbiamo. Ce l'hai? Sì, sì, sì, non sono così pazzo da perdere una cosa del genere. Ma la cosa che io faccio sempre lo sborone quando parlo, che è la verità, è così, insomma, cerco di essere breve, ma non ti preoccupare, ci abbiamo il sono tempo, tranquillo. A pranzo con mia moglie dopo un mese che è successo tutta questa cosa qua e stiamo mangiando e parte il telegiornale e Vincenzo Mollica dice: Dan Aykroyd a Cannes presenta il film e ricorda che ha cantato con un cantante in Italia che gli ha ricordato John Belushi, Paolo Belli. Ma io ho detto con mia moglie: ma ho sentito bene, sono io. E lì capisci che i sogni a volte si avverano, e tutto questo però grazie al fatto di continuare ad andare per la propria strada, cioè io ero convinto di fare blues, di fare swing, poi non so se sono capace di farlo, però andare avanti per la propria strada, e succedono poi questi miracoli che ti confronti e hai la possibilità di collaborare con degli artisti che sono sì, per me inarrivabili, insomma, invece esistono proprio anche loro. La cosa bella che dico sempre d'oltreoceano, che hanno una grandissima umiltà, maggiore forse degli europei, dove c'è molto il featuring, cioè io canto con te, con quello, con quello, con quell'altro, io faccio un film con te, con tutti i comici del Sardo, qui non è così, non è spesso così, loro sono molto più disponibili nel confronto, nel capire questo è più bravo di me, bene, lo metto vicino a me. Io ho avuto questa possibilità. Io credo che Dan Aykroyd non sarebbe mai venuto a cantare con te se tu non fossi stato all'altezza. Il nostro amico chitarrista sordo, se non fosse un grandissimo chitarrista, non avrebbe la possibilità di suonare. Non esagerare. No, ma è così. Però è così, sì, che fa, sei sputana? No. Cioè, loro sanno che l'Europa ha certe volte il 60-70% degli incassi di un film in Europa. E sanno che l'Italia è molto importante per veicolare un film in tutta Europa. L'Italia ah, sì, è la non lo sì, perché anche il doppiaggio loro nasce qua e loro poi danno il doppiaggio italiano come punto di riferimento al resto d'Europa per cercare di dare gli stessi toni. Mi hai fatto venire in mente una cosa meravigliosa che si sposta un po'. Però sì, a proposito di doppiaggio, sì. Un giorno un signore che è venuto a un mio concerto, ha detto: ma sai, mi piacerebbe che tu venissi anche a vedere quello che facciamo noi. E lui era il rumorista e mi portò Marinelli? Come si chiamano? Se sai, non purtroppo io non essendo di Roma, è in zona piramide, sì. Mi entrai in questo posto dove c'era ancora il vecchietto che... Ma tuttora esistono, sono artigiani. Ma una poesia, sì, sì, meravigliosa. E mi disse che gli americani vennero in Italia per imparare. Assolutamente sì. E avevano tutte queste registrazioni adesso in elettronica, tipo il mare Adriatico, il mar Tirreno, sì, il mar Mosso, il mare leggermente, esatto, mosso, l'alfetta che si accende, la Fiat che si spegne, la Fiat che parte, la Fiat in seconda, c'hanno tutti. E la cosa fantastica che lui mi disse: guarda, gli americani sono venuti da noi perché abbiamo veramente insegnato e portato la il cinema, l'arte del cinema in giro per il mondo. E mi fece un esempio. Posso? Sì. Allora, scena in questa stanza, era tutto assettico, si vede una signora che entra dentro da un dottore. Non si sente niente. Al che dice: vedi, noi facciamo così, e prende proprio un paio di scarpe, se le indossate, col e pavimento giusto. Ha detto: ah, beh, vedi che adesso funziona. No, aspetta, come ti sembra la signora? Che c'ha una gonna, e come c'ha le calze? Con o senza le calze? No, ce l'ha le calze. Ha preso le calze. Il rumore, lo sfregamento di quando cammina. Tutto stava cominciando a salire. Poi vedi, cioè, secondo te lì c'è la finestra aperta o c'è la finestra chiusa? Secondo me è chiusa. Bene, allora ci mettiamo un pochino di rumore d'ambiente, perché comunque una macchina fuori può passare. Sare, certo, un cane può abbaiare. Una roba meravigliosa. Emozionante. E lui disse: vedi, questi qua, gli americani, non lo sapevano fare. E che ce lo stiamo dimenticando anche noi, che abbiamo inventato quasi tutto. Ma veramente, guarda, quindi è vero quello che hai detto. Ma tu all'estero ci vai, sì. Nella pièce teatrale raccontiamo anche che pur di fare musica un musicista si deve adattare a un sacco di cose, e si deve adattare anche a spesso quando si va all'estero, perché andare all'estero, che dici wow, vai all'estero, si guadagna una lira, però la soddisfazione è tanta, però poi quando sei là ci devi saltare fuori anche lì, no? E quindi certo, io spiego cosa faccio quando vado, telefono a Danny Croyd, dici: sto arrivando Danny, vabbè, da te sarà così. Adesso abbiamo la pausa leggermente più lunga perché c'è il GR, non il TG come sono abituato a dire io televisivo, ma noi rimanete con noi perché Paolo Belli ci accompagnerà ancora un po' e poi verrà l'altro ospite, ovviamente, che è un altro grandissimo del cinema, che è Massimiliano Bruno. A tra pochissimo! Wow. Io vorrei essere un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 16:07 primi e 26 secondi, la pausa è stata leggermente più lunga, ma siete abituati al nostro GR e a quant'altro. Tra un po' ci sarà anche il collegamento con tutti i convocati, anche se i signori che si stanno avvicendando alla mia destra e alla mia sinistra non hanno problemi di risultato. Dai, ma è possibile? Quell'altro ancora non si presenta, perché ma tanto lo ha già annunciato, caro Paolo. Vuoi presentarlo tu? L'altro Massimiliano, ospite? Massimiliano Bruno è una delle persone che mi diverte di più al mondo. Pensa che mi viene da dire la stessa cosa di Paolo Belli. Scusate, e questo Paolo non depone a mio favore, perché cantando... No, lo so, però tu canti nella tua maniera, che è completamente teatrale. A proposito di teatro, io ti lascio questa... io ho passato una mezz'ora, tre quarti d'ora meravigliosa. Ti lascio la mia postazione e mi auguro che tu possa vivere quello che ho vissuto io queste tre quarti d'ora. Senza ironia lo stai dicendo? No, lo sto dicendo in maniera molto seria. Bianchi lacrimato a un certo punto, perché c'era un attore doppiatore che ha recitato un suo pezzo, prima raccontando che motivo aveva di esistere quel pezzo, che è straordinario, che è Là come va. Me lo rimetti in sottofondo, quella canzone meravigliosa dei tempi di Ladri di biciclette. E lui, ascoltando prima il mio racconto che ci ha portato a ricordare una notte bellissima a Modena, io, lui e Ciufoli dentro una macchina pieni di pioggia e di freddo, e lui che ci ha portato questi pezzi in anteprima, io ricordo quella serata bellissima, a parte con un amico dopo essere stati a teatro insieme eccetera, e il doppiatore, l'attore doppiatore, ha letto questa canzone prima di sentirla e mi ha lacrimato. Penso il periodo dei Ladri di biciclette, tra l'altro mi prendi nel vivo pure a me, perché Ladri di biciclette, quel progetto lì di Belli che è stato, insomma, che conosce tutta l'Italia, per me personalmente è legato a un amico carissimo con cui sentivamo, con cui avevamo la cassetta, perché una volta lui ci ha portato la cassetta stereo 4, un amico che adesso non c'è più e che cantava a memoria le canzoni, è stata un'estate divertentissima, quindi mi fa molto piacere incrociarvi in questa cosa. Quindi io, quando si tratta di non cazzeggiare e basta, ma di approfondire, mi trovate sempre pronto. Allora ti dicevo proprio questo, che ora ti lascio lo spazio e ti auguro di passare quello che ho passato io. Eccolo, perché è stata una roba veramente meravigliosa. E mentre, per poi tornare al cazzeggio e alla cialtronaggine, perché mi viene molto meglio, che è professionale come la tua o la nostra, cioè tu pure fai film, è goliardia, è professionalità, è divertimento. Io non credo che Massimiliano Bruno dietro la tele della cinepresa stop, per favore, cazzo, chi è quello? No, non ce lo vedo. No, soprattutto quando lavori con Giallini è difficile fare così. Rischi che te mena, rischi che Marco te mena. Perciò io, voce molto quotidiano, esatto, è così. Ho invitato Pino, ho invitato tutta la regia di là e invito anche te, naturalmente, tutti gli ascoltatori, a venire dall'1 al 5, scegli tu quando vuoi, dall'1 al 5 al Teatro Greco. Al Teatro Greco qui a Roma, e vedrai una roba strana. E mi fa piacere che strana, voi veniate, bella, voi. Musicale. No, sì, no, è una... Tutti quanti mi dicono, ma che cos'è? È una commedia? Anche. È un concerto? Anche. È un... non sappiamo. Quindi voi che invece siete del mestiere, se venite così mi dite che cosa diavolo stiamo facendo. Perché noi vediamo solo che alla fine la gente si alza in piedi e fa una roba meravigliosa con noi. Standing ovation. Ah, si dice standing ovation. In inglese, a noi pensavo che fosse fretta di andare via. No, così ti invito assieme a tutti quanti. Sono molto curioso, tra l'altro lavori in un teatro qui a Roma che fa sempre cose di grossa qualità, perché il Teatro Greco è... Ah, quindi vogliono rovinare il tutto così. No, quest'anno è stato un rilancio del Teatro Greco a Roma, sì, perché quindi io ti prendo teatro. Parola, vengo. No, scrivimi il numero, belli. Adesso, scusate, come dicono giustamente, sembra di stare al bar con un gruppo di amici. Ma veramente questa trasmissione è dall'informalità alla profondità, è un attimo. È un ragazzi, attimo. Quando il verde si sposa col marrone, quando il giallo col celeste. Io vi ringrazio. No, scusa, ringrazio tutti gli ascoltatori davvero di aver avuto la pazienza di ascoltarmi, ma soprattutto Pino, ringrazio te. Noi siamo. Ma ringrazio te non solo professionalmente, ringrazio te. E basta. E basta. Per quei soldi che mi hai prestato. Vedi, siamo destinati a ironizzare sulle cose importanti. Perché sì. È come quando ricevi un regalo. È più facile fare un regalo. Quando lo riceviamo, no, ti imbarazza. Sai qual è il problema? E allora dall'imbarazzo deve nascere la gag che chiude e ci fa vivere anche meglio, certo, perché sennò anche i momenti difficili si passano. Scusami. Sai qual è il tanto problema? Rimani fino a fine questo blocco, 3 minuti, ma io non voglio disturbare, non voglio togliere il tempo lui. No, dicevo, sai qual è il problema? Ma non c'è niente da fare. Che quando uno dice per i soldi che ti ha prestato, ci ho pensato un attimo, perché sai, ci ho passato un periodo che avevo anche bisogno di quello. Non mi hai chiesto niente. Ah, meno male, no, perché, dai, perché poi dopo fa tanto l'amico, poi dopo mi deve dare i soldi e non me li dà. Vedi, la prossima volta tu vieni e parliamo ancora di più inside Paolo Belli del momento di passaggio. Noi abbiamo parlato di cose belle, goliardiche, divertenti, anche dure. L'abbiamo solo sfiorato, però meno è giusto male, che la gente... No, ma quello che ti dicevo prima, ti avvicina molto di più alle persone quando una persona si riconosce te. Ah, ma ce l'ha anche lui questi problemi. Se sveglia anche lui con l'alito pesante. Anche Brad Pitt se è per questo, capito? Beh, la mattina secondo me, io penso sempre soltanto gli uomini hanno l'alito pesante. Non so perché, sono un bambino. Penso ancora che le donne sono sempre profumate di rose, di primule. È vero, loro non si danno delle arie come noi. Sì, esatto. Non si sa per quale motivo. Le donne sono delle cinci allegre. Esatto. Siamo noi la parte brutta. Siamo siamo dei caproni, siamo dei cinghiali. E sapete che Roma Nord è invasa dai cinghiali ultimamente. No. Non so se l'avete sentito. Non lo sapevo. Ma io tornando spesso a casa, io abito sulla cassa. Ho appena preso anch'io, ho appena preso la casa sulla cassa. E mo' per quello ci hanno visto a me e te. Quando torni la notte, verso l'una, le due di notte, noi che andiamo in giro a drogarci con delle, esatto, delle, con rapporti occasionali, che siamo sempre un po' in giro, noi artistici. Tornando la notte, ogni tanto trovi delle file di cinghiali, tre o quattro. Di solito c'è la mamma cinghiale con i cinghialotti, così. E addirittura stanno entrando nei comprensori. Le persone sono terrorizzate. Non sto scherzando. Allora, io vi dico che Paolo Belli e Massimiliano Bruno hanno tranquillamente la possibilità di rendere zero la paura di questi cinghiali, perché se li mangiano, per cui non è un grosso problema. E non è una battuta, sto parlando di persone che insomma hanno peso. Abbiamo anche in regia un artefice del, il nostro tecnico del suono, esatto. Si è mangiato tre microfoni, tre cuffie, due, esatto, ospiti la scorsa settimana, esatto, si è mangiato l'idea di cinghiale in generale. Noi siamo, esatto, rappresentiamo quelli che hanno combattuto la quella malattia, che ve l'avete risolta ringraziando il cielo. No vabbè, una buona forchetta, ha detto. Tu mangi il cestino nella pausa del cinema? Che il cestino se lo mangiano i poveri. Esatto. Sta dando un'immagine di sé all'opposto. No, io mangio il cestino rosso, quello più grasso. Esatto. Quello col sugo. Quello col sugo. Perché per chi si fosse messo in ascolto del cinema, il cestino rosso è quello col sugo, tutto eccetera, quello bianco è quello, lo diceva la stessa. Ma poi c'è FF, che è frutta e formaggio. Mamma mia, che tristezza. Frutta e formaggio è per persone molto tristi. No, perché Palo! No, non è chi? No, continua a vedere la partita di Dybala. Cioè, voi vi rendete conto? Io ho degli ospiti straordinari, siamo commossi, abbiamo raccontato le storie e questo adesso mi... Ma sto scherzando! Non è vero, ho preso il palo davvero. Guarda che tu ci scherzi, però il connubio fra arte, calcio e sport, tu pensi a quella canzone meravigliosa che ha scritto Lucio Dalla su Senna, Ayrton. E Paolo Belli sta per scrivere Dybala, che è questa che canzone. Bala, cioè non è tutto attaccato, è di Bala. Pensa se di Paolo Belli e Bala. Dimmi se io non voglio bene a Pino. Ecco. E al teatro. Mia moglie sa che quando gioca la Juve mi deve sempre chiedere, cioè mi chiede sempre quando gioca la Juve, perché se gioca la Juve non si esce, esatto. E quindi si esce. Oggi gioca la Juve e sono venuto da Pino. E io ho detto, se vuole vedere la Juve sta a casa, io non voglio, mamma scherzando. Mia. Questa ovviamente, però posso dire, questa è amicizia, amore, che merita, se volete io qui posso fare un outro, si dice sì, così? Leggi la tua, un outro. E c'è la pausa, c'è la pausa. C'è la prima, annaccia, la volevo fare. Vorrei un minuto dopo. La notte è già finita, il sole viene su, Paolo Belli, vai via. Chi ti dimenticherà più? E su questo ci salutiamo e salutiamo Paolo Belli. Grazie, resta Pino, con noi Massimiliano. Grazie a tutti. Grazie a te Paolo. Martedì, da mercoledì teatro. Da mercoledì in teatro, dal al primo greco, appunto al 5 di febbraio, a Teatro Greco qui a Roma. Va bene. Io ci sarò. Pur di fare musica. Ciao, a tra poco. Che ciao, fermi, a tra poco. Voice Anatomy. Sto baciando Paolo Belli. Sta andando via. Grazie a te. Ci vediamo a teatro. Bruno. Oh, posso chiamarti Bruno? Bruno Brown anche puoi chiamarmi. Sai che il mio nome in inglese sarebbe fichissimo. Max Brown. Il mio è più bello. Joe I Teach. I Teach. Giuseppe io insegno. È la prima persona singolare. Senti, è un piacere stare qui con te. So che la tua trasmissione è pluripremiata, sì, è super ascoltata e so, veramente. Ma è bella, ci tenevo tantissimo. Sei stato molto carino, perché è una trasmissione che ha trovato un parcheggio ottimo, perché nessuno magari aveva pensato di accompagnare con lo studio della voce, perché poi qui abbiamo anche dei tecnici, arrivano dei medici, dei vocologi, dei insegnanti di canto, quelli che aggiustano la dizione, sì, sì, oppure sì, dei problemi. Lo so, ti seguo, divertente. E bella, ti ringrazio, anche perché ti ho rubato la domenica, magari c'è il film in uscita. Cioè, film in uscita, non proprio in uscita, uscita, esatto. Esce il 23 febbraio, fra un mesetto, abbondante, e si intitola Beata Ignoranza, con gli immarcescibili Marco Giallini, Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e tanti altri. Noi abbiamo un momento, vero? Il dottor Mauro Meconi mi ha scaricato un momento del trailer di quel film, eh? Abbiamo? Va bene, allora ascoltiamoci, proprio quasi in anteprima, perché insomma... Eh sì, perché è uscito il trailer 24 ore fa. Per cui è uno spoiler quasi del film. Sì, figo, dai. Vai, ascoltiamolo. Signori, vi presento il vostro nuovo collega di matematica. Vi conoscete? stiamo scherzando? Chi oggi non si aggiorna su quello che accade in rete è un ignorante, va bene? Allora se è così, caro Filippo, beata ignoranza! 925.000 visualizzazioni. Io ti spacco la faccia! Siete delle star adesso, no? Allora scommettiamo, che si vuole? Scommettiamo che non ci riesci. Adesso puoi comunicare con miliardi di persone in tutto il mondo. E che cazzo ci avremmo da disso? Io ho il sacrosanto diritto di mandare un messaggio a Dio ai miei 5.000 followers! Sì, caccia immediatamente tutte le password. Siamo in guerra. Tutti mi taggano, mi condividono, figa di qua, figa di là. Io ti porto all'esame con 7 anche se sei una pippa. Sì, ma in cambio che cosa vuole? Uno smartphone. Uno smartphone, sì. Attenti a cecchini sul palazzo! Cosa fa? Ma stiamo combattendo contro due tredicenni di Mosca, due infami. Beata e ignoranza al cinema. Che fate? Fai il trailer da solo, te lo faccio io. Beata e ignoranza. Questa voce che c'è te è meravigliosa. È quello, doppierò Giallini al prossimo film che poi fa. Lo sai che voi date dipendenza. Sì, si crea, sì, questa perché dipendenza. Dopo un po', una voce come la tua, che è storia ormai in Italia, eccetera, eccetera, c'ha proprio una cosa che se tu vedi una roba che c'è sta voce sotto, pensi, ah vabbè, questa è una cosa seria. Ma posso vedere. Perché se no, se non ci stanno voci nuove, che tu, ma che è sta poracciata? Sì, la fintacciata. La fintacciata, invece tu vuoi... Bello questo qui, è bello. Io voglio raccontarvi un po' di Massimiliano Bruno, però mi metti una musica di sottofondo, voglio presentare bene, come se fosse una poesia. Eccola. Massimiliano Bruno è nato a Roma, ma è di origine calabrese. Fin da piccolo frequenta diversi laboratori teatrali e in breve tempo si impone come autore, attore e soprattutto regista, con film di grande successo. Un artista poliedrico. Non tutti sanno che è l'autore della maggior parte delle commedie italiane di successo, Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine, eccetera. Da scrittore, in quale momento capisci che tra le mani hai un film di successo, caro Massimiliano? Neanche Quark comincia così. Quando capisci? Non lo capisci mai. Mai. Perché il pubblico, come tu sai meglio di me, è imprevedibile. Quindi io ho fatto film che costavano poco, che hanno fatto tanti soldi e il pubblico l'ha graditi. Film che su cui ci mettevo la mano sul fuoco che sarebbe andata una bomba, che non è stato così. Quali sono stati? Vabbè, uno, lo sliding door della tua vita, secondo me un regista, ovviamente nessuno mi può giudicare. Nessuno può giudicare, era un film piccolino. Ci avevi creduto, come sempre. Ci avevo creduto tanto, però era, tu sai che, insomma, nel nostro mestiere ci sono delle onde. C'è quell'attore che in quel momento funziona, tutti vogliono quello. Poi ce n'è uno che è in ribasso, no, ma quello non funziona. Ed è quello, magari, quello che ti dà la botta forte al film. Per me è stato Paola Cortellesi, che aveva fatto tanti film al cinema, ma mai un ruolo da protagonista. E non erano mai andati, diciamo, al massimo i suoi film. E io, l'intuizione che ho avuto, a parte per la storia... A parte voi siete un binomio, tu sì, e Paola, esatto. Siete un binomio teatrale, di creatività autorale importante. Sì, sì, con Paola scriviamo insieme, facciamo le cose insieme. Cioè, era una cosa... Ho pensato che forse potesse essere il momento di Paola e quindi il momento mio. Allora, nonostante la distribuzione, la produzione volesse dei nomi più importanti, in quel momento c'erano, e Paola è stata dentro, la carta vincente, c'era la Bova, che è stato, però l'idea geniale, il motivo per cui si è fatto il film, sì, perché ma... siccome c'era Bova mi hanno prodotto il film. Però la cosa bella che hai fatto è Bova, che hai fatto l'antieroe, cioè hai fatto, non hai fatto Raul Bova il belloccio che piace Gagliardo, ma hai fatto l'antieroe sconfitto, perdente, che poi ha il suo momento di rivalsa, cioè poi, hai utilizzato le persone in modo giusto. A Raul gli ho detto: Raul, devi recitare con Valerio Mastandrea. Gli ho detto così. Quindi ha cominciato a parlare un po' coatto, così e... ha funzionato. Ha funzionato. Raul era bravissimo. E invece film. Dove che hai creduto di più e magari non ti ha dato quella soddisfazione? Beh, speravo che l'anno scorso Gli ultimi saranno ultimi avesse più era il mio primo film drammatico, diciamo, se avesse una risonanza migliore. Siamo stati molto sfortunati, è stato sfortunato il mondo, noi siamo usciti il giorno del Bataclan, purtroppo. Ah, per cui tutto ti va meno che andando al cinema. Esatto, e non andava a nessuno di noi, quindi alla fine abbiamo scelto e deciso giustamente di non fare quei giorni la promozione. L'Italia era deserta, non andava al cinema, quindi ci ho avuto questa sfortuna. Chiaramente quelle persone sono morte lì a Parigi, hanno avuto una sfortuna estremamente più grande. Però è stato, allora pensavo che potesse essere visto da più persone, però vabbè, insomma. Questo fa parte un po' dell'andirivieni. Mi ricordo quando ho scritto Notte prima degli esami, che uscì sto filmetto dove non avevamo personaggi famosi, c'era solo Faletti un pochino. Sì, ma che Faletti era un cantante, era uno scrittore, era una persona che è stato in coma, che esatto. Tutto era un attore comico. Ed era, invece sì, faceva parte. Ed era stato un boom incredibile che ha lanciato la Capotondi, Vaporidis, eccetera. Ed è stato. Eh sì, Preti e Brizzi, insomma, è stato anche per lui è stato lo standing endorse della sua vita. È stato il grande, è stato il grande evento della sua vita che poi gli permette adesso. Sono molto contento per Fausto che quest'anno ha fatto un film di Natale, diciamo, sì, così. È vero, è la prima volta lui che usciva col film di Natale. È stato il più fortunato dei film di Natale, sì, perché a Natale non c'è stato questa grossa eco, questi grossi incassi da parte dei film italiani, mentre lui è riuscito comunque a portarla a casa. E sono contento perché Fausto è comunque un bravissimo regista, un bravissimo autore. Sì, ci siamo sentiti, ha detto vengo di domenica come accompagno mia moglie fuori, vengo di domenica da te. Ancora la moglie c'è, mo speriamo che non ci ha sentito, se no faccio pure il dicasto. Tu invece non sei sposato, come stai combinato? Tu sei sposato, hai figli, che fai? No, figli io non puoi. Non voglio, che c'è? Cioè, mi stai a fare una faccia, mi ho preso un colpo. Non posso. Lo sai come succede, no? No, ma c'è, guarda, quel momento in cui non devi levarti. Che è tutto là sta, Max. I figli, cioè i bambini mi piacciono. Esatto, quelli degli altri. Ho avuto sempre questo problema forte di avere vicini di casa con i figli. Tipo adesso, piangono 24 ore al giorno. Anche 25. Ecco. E io forse non sono pronto. Non si dorme. Piccolo. No, pure una cosa. Non si dorme anche per 2-3 anni. E con tua moglie, che prima ci facevi l'amore quasi tutti i giorni. È finita. È finita. Non se fa più. Come cominci lui lo sa. Lo sa. Ma è lì apposta quasi. Ma tu gli puoi dare tutte le medicine del mondo, non le posso nominare, non c'è niente da fare. È così. Loro ci avranno. Al terzo anno cominceranno a trovare il sonno, si dice, al terzo anno, perché prima hanno soltanto una piccola fase REM, ma il sonno profondo un bambino dopo i 3 anni, quando tu ormai hai tentato tutto, anche il suicidio, e non c'è più niente da fare. Per cui tu questo non sei pronto al bambino. No, aspetto bello di diventare miliardario. Esatto. Per avere uno sciame di tate, di cose per cui appalpare il figlio. Guarda, tu incasserai l'ira di Dio, tua moglie ti busserà su una spalla, dice mo i soldi abbiamo fatti, stendete, spogliate, faccio tutto io. Ma guarda che lei non gli frega niente. Manco lei, fortuna. Ma hai fatto i provini pure lì, non fai solo al cinema. Tu fai i provini, mi ami? Sì. Vuoi dei figli? No. Vieni, bene, te sposo. Perfetta. È la prima moglie, unica. È giusto. Quanti anni hai, giovane? 32. Ma vabbè, 31. Tu? Quanti anni siamo arrivati, Bruno? 46. Ce la fai, dai. Un pochetto. Guarda, dall'altra parte c'è Meconi che sta esaltando se stesso perché credo che la sua squadra del cuore abbia segnato... Sì. Un gol. No. Siamo così qui, capisci? Forse ha segnato El Shaarawy. Chi ha segnato? Dzeko segna dappertutto. Dzeko ha questo nome brutto, ma segna dei gol. Esatto. Benissimo, va bene. È così. Io non sono della Roma, quindi va bene. No, tu sei un po' più avanti. Il mio portiere di fantacalcio ha appena preso 2 gol. Chi hai nel fantacalcio? Ho il portiere della Fiorentina, al momento Sportiello. Sportiello, si chiama, sì. c'è uno che ha sto nome comunque. Esatto. Non puoi far portiere. Lo so. Può far terzino, che fai Sportellino. Esatto. Con quello che ha ma la riserva per il titolare è Tatarusano che è quello che gli fa addormentare i ragazzini. Esatto. Chi c'hai tu a casa? C'ho Tatarusano che è bravissima a cucina, mette a letto, esatto, i ragazzini. Papa Luciani. Papa Luciano non era un Papa Fortunato. Non era un Papa Fortunato. No, ha cantato una sola estate, povera creatura. Sai che poi c'è questo giocatore del Genoa, si chiama Ilie Mark. È svedese, io ce l'ho nel fantacalcio. Ce l'ha nel fantacalcio. È passato dal Palermo al Genoa e io ho pensato, vabbè, ma la prima partita che gioca te pare che segna? Non lo metto oggi. Ha segnato adesso. Meno male che nel cinema sei un po' più attento, sei un po' più bravo. Io st'attore, te pare che mo' me funziona? Io non lo metto. E funziona. Film con Arto, con Brizzi, magari che è un amico che manco gli può dire mortacci, sì, hai capito? Allora ti dico questo, quando abbiamo fatto Nessuno può giudicare, siamo usciti e abbiamo fatto un grande successo al botteghino, così un mese dopo la mia protagonista è uscita con un altro film e non ha fatto una lira, non si capisce perché. Ma è così, perché il film non era scritto bene, molto. No, non lo so, no, è pure carino. Ma tu puoi pure De Niro che fanno uno scatenato, ma non va bene, cioè, capito? O forse certi attori fanno troppi film, forse un film ogni 15 mesi va bene. Esatto. 4 film ogni 6 mesi, no. Guarda Massimiliano, io ho fatto 8 film e lo dico sempre, vanno in onda per i dimenticabili di Rete 4. Per cui va bene così. A tra pochissimo Massimiliano Bruno e poi ci colleghiamo anche con Capuano per tutti i convocati per sapere un po' di movimento. Movimenti calcistici. A tra poco. Sì. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, 16:31 primi e 7 secondi, Massimiliano Bruno al mio fianco, tratteggiando la sua vita, ma non soltanto quella, da attore, da regista, dato io ti ho conosciuto come attore. Diciamo di quello che abbiamo parlato, di quello che finora è allenatore di fantacalcio. Esatto. La cosa che fino adesso sei un esperto di fantacalcio. Esatto. La cosa che la gente non conosceva, però è che sa che sei un attore, sa che sei un regista, sa che sei un autore, ma non sa che sei un appassionato di fantacalcio. E io metterei l'intervista proprio su quello, focalizzerei proprio, esatto, l'attenzione la più su importante. Quello. La gente fa botte a su... proposito di beata ignoranza di quel film, ecco perché. Esatto, ecco perché è ignorante. No, ma l'ignoranza è... come mai beata ignoranza? Perché adesso... beata ignoranza perché il tema del film è la rete, e allora che fa parte di un'altra generazione, no? Esatto, allora ci sono nostra. Due personaggi che si fronteggiano. Uno pensa che il progresso, la modernità ha portato Facebook, Twitter, Internet, è una cosa positiva, quindi la utilizza. Quell'altro. Ed è Gassman. L'altro invece è rimasto agli anni 70, che Giallini. È Giallini, e quindi pensa che sia tutta monnezza. E quindi si fronteggiano fino ad arrivare a scommettere, scambiandosi le vite, che di dimostrare che la vita dell'altro è una schifezza, ma in realtà ognuno di due, entrando nella vita dell'altro, scoprirà delle cosette che invece gli piacciono. E invece Massimiliano Bruno qual è? Affezionato al passato analogico o sei digitalizzato? Allora, io sono un po' tutte e due. Cioè, nel senso che da un lato io ammetto di passare diverso tempo in rete. Mi piace, per esempio, il giornale, io oramai mi leggo Repubblica online o Il Sole 24 Ore online. Il Sole 24 Ore, che siamo qui a Radio 24, brutto, certo, ruffiano. E certo, Gazzetta dello Sport. E dica, esatto. Corriere dello Sport. Però difficilmente mi compro il cartaceo, anche se mi perdo degli approfondimenti che sono sul cartaceo. Sì, mi compro i settimanali, perché compro l'Est Internazionale, da... però insomma... E invece magari mi perdo delle cose. Sei però facebookiano? Sei sono Facebook, c'ho Facebook, non ho Twitter. Non hai Twitter. E Instagram ci sei? Ce l'ho, ce l'ho da poco. Mi fotografo in situazioni, però mi sento un po' uno scemo. Io non lo faccio più, perché pensavo sempre, il sottotesto era sti cazzi. Cioè, sì, che, sì, cioè, ma non... che è quello che penso degli altri, no? Sì, capito, sto sì, mangiando sì. Un esatto. Gelato al Lampone. Vabbè, sì. Allora... no, mediamente lo usano, alla fine lo usi per sì, spingere le cose verità. Che stai facendo. Guardate, sono io, per esempio, ho messo l'altro sto giorno sul set. Sono al montaggio. Ah, certo. Sto montando. Sto montando, era più bello. Montando. Già sarebbe una fotografia migliore. Esatto, una bella perché comincio a conoscere esatto. No, sotto panni. Dipende chi stai montando. Insomma, esatto. Soprattutto... in quel caso montavo Giallini e Gassman. Questo è come i film porno che risparmiano, perché il protagonista e il montatore sono la stessa figura. Esatto. Insomma, ecco. E invece mi manca molto, riconosco che per colpa di questa cosa leggo di meno. Io invece prima mi sparavo un romanzo a settimana ed era una mia abitudine fino che è a quello che anno. Poi ti ha costruito leggere cioè, esatto, sei diventato esatto. Autore anche grazie a quello, e devo dire che pure col cinema c'è un po' di difficoltà, nel senso che avendo Sky, avendo Netflix, avendo la Sbrisling. Possibilità di on tutto, demand tutto, e certe volte uno dice mi vedo sta serie Strange Things esatto, e non ci vado al cinema stasera, e quindi molti film li perdo. Il rischio della serie è quello che smetti di leggere e ti segui le serie, perché più o meno sono sempre quelle, poi cioè io, tu quando vedo la prima puntata della serie più o meno già ormai da sceneggiatore capisco più o meno dove vanno a parare. Qual è quella che ti è piaciuta di più? Quali serie quest'anno questa che ho seguito Strange Things mi piace tantissimo, e poi sono affezionatissimo a Walking Dead però cioè, cambia. Ogni stagione so, c'è una prigione, si ammazzano i morti in una prigione. Ma io vorrei uscirne da questa cosa, però ti giuro non io quando mi è chiamate morto... Cristian Iansante per favore, che è il protagonista di Walking Dead. Ah, sì? La voce protagonista, ma io lo amo. Ce l'avete il numero? Ecco, chiamate Cristian Iansante se lo troviamo. Chiamatelo, lo perché poi ogni tanto sto a casa una no? Spoilerata sì, e lui fa un'altra voce di un'altra cosa. E io penso Walking Dead esatto, perché poi adesso no, dico Iansante Christian ha finito adesso Trainspotting il 2, il seguito, che lui era il protagonista, era Evan McGregor, e poi è la voce ufficiale anche di Radio 24, pensa quante cose fa Iansante, capito? No, ma è bello. Poi noi non possiamo parlare quando dobbiamo le serie, perché le dobbiamo in anteprima, perché certo. Trono di Spade cioè, sappiamo prima, ma e tu siamo... non puoi spoilerare, no, se no ti ammazzano. No, ti ammazzano, ne denunciano milioni di euro, certo. Se esce una foto o qualcosa, tu ti ce l'avevano i cellulari, okay, Trono di Spade sì, poi c'è pure Trono di Spade. Beh, però tu vedi soltanto la scena tua, per cui certo. Non è che capisci dove stai, non c'è manco tempo di chiedere, no, che certo, sto a fare, certo, certo, cioè almeno certo. In un film uno arriva, mi chiami per fare un film, ma da fine la storia dell'impiegato che già questo divorzierà, farà quest'altro, qui non lo sai, qui niente, sbrigamose. Dundo stai lì, quello lì in mezzo alla battaglia, in bianco e nero, senza gli effetti speciali. Ma che ti dicono, calcola che quello tu un po' lo odi perché ti ha ammazzato tuo padre. Esatto. E quattro serie fa. E quindi... non glielo puoi dire, capito? È un'altra cosa. Per cui stai su quelle di serie al cinema, per cui diventi chi fa cinema diventa neanche. Sai che senti, pronto? Stavo provando, buongiorno a tutti, stavo provando a sentirvi anche tramite radio, ma c'è il ritardo, quindi adesso ho dovuto togliere la radio e sentirvi soltanto dal telefono. Senti, ti capisco, perché ogni volta che sono stato di fronte a un ritardo ho sudato freddo io. Hai capito? Sì. Chi è che parla? Massimiliano Bruno, il grandissimo regista, autore cinematografico, che ama una serie su tutte che è Walking Dead. Allora ho detto, chiamate la voce ufficiale di Radio 24. Beato lui che l'ama, beato lui. Ma ti dà, te fa pagare il mutuo, ma smettila. No, bello che ogni tanto quando ti becco che fai altre cose, perché ne fai tantissime, grazie al cielo, perché sei un grande attore, diciamo, doppio. Esatto, e ogni tanto io faccio e dico, ma questo è Rick. Esatto, per me sei Rick. Sì. Senti, presenta il film nuovo di Massimiliano Bruno, Beata Ignoranza, con la voce di Rick, dai. Come si chiama questo film? Beata Ignoranza, che è quella tua, quella Giallini e Gasman. Con Giallini e Gasman. Come no, ma ho visto il trailer, certo. Bravo, certo, allora certo. Vai. Come Rick farebbe durante prima di un attacco dei morti viventi, presenterebbe agli altri questa beata. Come farebbe Rick? Vai. Vorrei tanto andare a Filadelfia e vedere il nuovo film di Massimiliano Bruno, Beata Ignoranza. Ma ci sono troppi zombie e io, oltretutto, di recitazione non ci capisco un cazzo. Perché questa è la verità di quell'attore cane che si chiama Andrew Lincoln. Lui odia, lo odia. Chiaro il concetto? Chiaro il concetto? Ma non lo puoi dire, ti levano da quel film, ma la smetti? Ma chi se ne frega, lo dico soprattutto ai fan sfegatati che difendono un attore cane che è la terza scelta. Poi... perché all'inizio mi pare che addirittura avevano pensato, fa conto, a uno Sean Penn, ma poi non avevano i soldi. Mi pare troppo. Per permettercelo, ma... poi sono passati al secondo, ma il secondo nel frattempo si era impegnato con un'altra serie. Si era impiccato. E Andrew Lincoln ha svoltato la vita sua, capito? Terzo, cioè lui stava in panchina, Pino, un po' come te quando giochi a pallone. Esatto. Ma smetti, ha fatto terra bruciata in un attimo. Ma ho chiamato Cristian. Ho capito. Pure quattro gol, capisco, ma allora non può essere, cioè è stato accettato tutto il mondo, un successo mondiale. Qui in Italia tu l'hai reso sicuramente importante, e ha dato una profondità che lo sappiamo che il doppiaggio migliora, però non lo so come l'ho reso, però a volte ci sono, appunto, sai, quelli che devono difendere per forza, che mi dicono invece che in originale è un'altra storia. No, in originale è fiatoso. Io vi dico una roba, un attore che è il protagonista di una delle serie più viste al mondo, che non è mai stato premiato, ma neanche menzionato in 7 anni. Ci sarà un motivo, strano, ci scusa, sarà un motivo, dici, no? Lo so, ma non lo so se c'è un motivo. A 7 anni, ma perché non telefoni a Cruciani? Mai, ma mai candidato, mai premiato, ma neanche menzionato, signori. Cristian Ghianzante, io mi tiro io indietro. Dico una cosa, perché non fate uno spettacolo a teatro con le voci, con tutti i doppiatori più importanti di queste voci, così, dove comunque fate con quelle voci e dite a tutti che sono dei cani infami. No, dite altre verità, è bello, non sarebbe male. Io ho la fortuna, Pino, insomma, lo sa, di doppiare veramente i più grandi attori del mondo della mia generazione, perché poi fra l'altro lo faccio da 27 anni, insomma l'ho doppiati quasi tutti, non sono tutti uguali. Cioè, per esempio, io mi ricordo un attore che avrei voluto curare meglio, che era il protagonista del Decimo Dottore nella serie Dottor Who. Esatto, io quando ho doppiato questo attore mi sono reso subito conto che era straordinario, anche se purtroppo, siccome era una sorta di doppiaggio low budget, io dovevo fare in una giornata una quantità di scene che equivaleva a 3 mesi di lavoro di questo attore. 70 poi sono andato, a vedere, io avevo avuto la sensazione che fosse bravo, questo è uno dei più grandi attori inglesi, soprattutto di teatro, quindi non è che sono tutti uguali. Cioè, io per fortuna, ripeto, ho doppiato anche gli Sherlock, attori, esatto, lo stesso di Sherlock, che magari avrò anche veramente un po' peggiorato, perché non ho avuto la capacità o il tempo, ma questo non riguarda niente, te sta sul cavolo, entri, quello di va bene, sta sul cavolo. cavolo, sono onesto. Piede di gocce e calma da adesso, va bene. Sono onesto, non è che mi sta sul cavolo, deve morire. Deve morire, deve morire in questo momento, in un brutto incidente stradale. Esatto. All'incrocio fra la quarta e la undicesima. Ma no, ma guarda, sai, lì basta il morso di un. Ma no, non sta fermo. Ti voglio bene. I vaganti. Vai, tranquillizzati. Ciao, Cristian, grazie. Ciao, ragazzi, ciao, tante cose. Lo spot, diciamo, il cross fra Walking Dead e Beata Ignoranza fa ridere, grazie, esatto. Complimenti. Non è niente male, anche Fear o The Walking Dead, quello non l'ho visto. Io l'ho visto la prima serie, ma niente. Superate le prime due puntate che ti spiegano come mai ci stanno i zombie, poi sì, dopo vabbè, non ti frega niente. Chi se ne frega, stanno pure da là. Noi invece vogliamo sentire un pezzo del Martellone che è di Boris, se non sbaglio. Ah, grande. E allora, vai. Scusami, ti volevo dire una cosa a proposito delle sceneggiature degli ultimi mesi. Ecco, se mi fai anche la cortesia di riferirlo ai tuoi colleghi sceneggiatori. Vaffanculo! Il notaio comico degli mortacci vostra! Ma che hai? Ma sei pazzo? E poi devo aggiungere una piccola cosa. Vi siete scordati una cosa piccolissima. Sarebbe? La piccola Natalia. La piccola Natalia, e questo lo dicono almeno 10 personaggi sulla sceneggiatura, parla solo con me. Gli altri non capiscono un cazzo e il notaio sì. Non parla né con i familiari, né con i medici, nemmeno col dottor Giorgio. È un dono speciale del notaio, gli ho scritto così. E quindi non me puoi ammazzare, capito? Il notaio non può morire, hai capito? Brutta merda di uno sceneggiatore avido bastardo! Sei un pagliaccio, sceneggiatore cane che ruba il lavoro a quelli bravi! Quanti lavori sei? Quante case ti sei comprando, brutta merda, sceneggiatore di Capalbio? Le botte che gli ho dato a Valerio Aprea in questa scena. Boris è stata veramente una serie che ha cambiato un po' certe regole. Bello, geniale. Bello, io credo. Pannofino, geniale come. Pannofino era bravissimo. Ma tutti, scritto devo dire. Da Ciarrapico, Torre e Vendrusco, sì, no, in maniera bello. Esemplare. Ed era divertentissimo fare. Io era sia per addetti ai lavori che non perché faceva ridere. Beh, ma c'ha dei fan per Boris. Sì, di sì. Boris, a me per strada, ti giuro, quando la maggior parte delle persone che mi fermano è per dirmi Boris. Grazie per Boris. Ma quando lo rifate? Quando lo rifate? Guarda, chiedete ai sceneggiatori. Io c'entro niente. C'entro niente, mi sa che non lo fanno più. No, è stata un'esperienza molto divertente, diciamo un tipo di fiction che in Italia non si faceva, no. Che si è potuta fare grazie alla TV satellitare, cioè Sky, eccetera, eccetera, Fox. Ed è stata questa scena che hai mandato, cliccatissima su, beh, sì, su YouTube. Sono due parolacce, ma sono dette sane. Sì, dai. Sono dette in maniera sana. Dai. E questo che è andato poi, che è stato montato, è il primo Jack che ho fatto, dove un pochino ho improvvisato. Buona la prima. È stata buona la prima perché un po' non mi ricordavo bene le battute esatte. Allora, le parolacce che dico, le dico un po' di nervoso perché non me le ricordo. Ed è una divertentissima, ricordo tutta la troupe che è scoppiata a ridere dopo. Vendrusco l'ha fatto Max, è divertente. Forse era un tantino troppo volgare, la rifacciamo più pulita, invece poi è stata montata questa. Ma funziona, dove ti muovi meglio, dietro o davanti? Nel senso, dietro. Per chi si fosse collegato solo adesso, ecco, non stiamo è una parlando con John Holmes ecco. Che si muove Franco meglio Trenta dietro. Lance, esatto. Abbiamo qui l'ospite di Voice Anatomy, dietro davanti alla cinepresa ovviamente. E dietro mi trovo meglio, nel senso che davanti ho capito che non sono un attore puro a cui va di interpretare personaggi. Io non so, ecco, non te va perché io non t'ho visto. Non me va, non. Ti conosco prima come attore, sì, poi ti ho conosciuto come regia. A me piace se io mi dico gli affari miei e faccio uno spettacolo in cui racconto qualcosa che mi preme. Però, sinceramente, mettermi a interpretare un personaggio. Zero è stato. Zero, vi dico, è uno spettacolo teatrale che dovrebbe diventare anche un film. Speravamo che diventasse un film, esatto. Ma poi mi sono messo a fare commedie che incassano di più. Ho capito, però regalatelo quello spettacolo, ma lo devi fare tu tutte le parti, perché è uno spettacolo dove tu interpreti tutti i ruoli ed è emozionante da impazzire. Era uno spettacolo, la cosa a cui registralo, producitelo e mettilo in onda, ma dai. Sarebbe figo, ma almeno come spettacolo teatrale potrebbe andare in onda, sarebbe comunque molto fruibile. Ma che cinema. Per il resto, certo, quando scrivi un film, lo dirigi e puoi dire esattamente quello che vuoi con gli attori che... Li porti per mano, sai dove portarli. E ti senti più la cosa tua, sicuramente quando ho fatto Viva l'Italia, mi ricordo con Michele Placido e tanti altri, e quando ho scritto quel monologo finale, quando poi l'ho visto montato e tutto quanto, ho detto che bello. Sei emozionato. Che... Poi Michele è un attore straordinario, ma anche molto difficile. Il giorno che del monologo finale, che era un monologo di 5 pagine, è arrivato, ha detto che scena facciamo oggi? È così, è vero, parla sì. Noi mi difendiamo. Ho fatto come che scena facciamo? C'è il tuo monologo, dovresti saperlo a memoria. Ah, vabbè, facciamo un gobbo, una cosa, non ci sta un gobbo qui. Se lo fai i denti. Michele Placido, signori noi, Massimiliano Bruno, a tra pochissimo con Voice Anatomy per l'ultimo blocco insieme, l'ultimo, ne manca l'ultimo, ok. Sanatomi. Eccoci signori, molto rapidi dopo le notizie del traffico, questi ultimi 10 minuti insieme a Massimiliano Bruno. Massimiliano, ma che stai facendo qua con Pino Insegno? Che cosa state facendo? Rocco? Sembra Rocco Papaleo Rocco, così. Ma che ci fai qua? Rocco, okay. Come stai? Come sto? Pino è un amico. Voglio dire, abbiamo fatto delle cose insieme, se non sbaglio. Sì, Basilicata, sì. No? Ti ricordi? No, lì non c'ero, Rocco. Come no? La festa della pignatta. No, non l'ho fatto il film. Come no? No. Non mangiavamo gli strozzapreti alla muratura. No, Rocco, siamo amici, siamo incontrati, sono venuto io a vederti a teatro, ma tu non mi hai chiamato per fare il film. Vabbè, allora vi ripasso Massimiliano. Esatto, pure Massimiliano. No, Rocco è un grande amico, ha fatto tre film con me, mi ricordo, primo film, Nessuno mi può giudicare. Che bravo che è. Gli presento questa sceneggiatura, lui faceva, cioè aveva un ruolo diciamo secondario però divertente, dove faceva un fascistone razzista, sì, così. Lui l'opposto, lui che... l'opposto, quindi gliel'ho fatto leggere. Pronto Rocco, ma che dice? Max, sente, ho sentito la produzione, non è che ci siano tutti questi soldi, ti dico francamente, però l'idea di fare un fascista razzista mi alletta non poco. Esorcizzava la sua posizione. Ci colleghiamo con Capuano, c'è, cioè, che la trasmissione viene, eccomi, dopo molto, eccola lì, tutti convocati. Il dottor Capuano, qui abbiamo il re del fantacalcio, che è Massimiliano Bruno, oltre ad essere il re del botteghino. Dottor Capuano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Io invece ho tenuto fuori, che dire, Bruno Perez, che hanno segnato. Quindi allora, questa è una delle domeniche per il fantacalcista. Sei un fantacalcista, che ho calcistico pure tu. Io ormai non è colpa tua se la mia squadra ieri ha perso. No, se vuoi partiamo da lì. No, lo so, ho già vissuto quell'incubo che... Questa è anche la bellezza del calcio, quando non capita la tua squadra. Ho fatto doppietta con Falcinelli, scusate, sì, è la soddisfazione sul rigore. Ho creduto in questo ragazzo umbro che il Crotone continua a schierare centravanti e mi ha fatto una doppietta. Per me è importante, volevo dirlo. Allora sentiamo questi risultati, che sono molto più importanti per il mio amico Massimiliano Bruno di quanto pensassi. Prego. Sì, oggi è una domenica che rischia di essere decisiva, perché c'è la Juve che vince 2-0 a Reggio Emilia col Sassuolo, Higuain, Khedira, tutto nella prima mezz'ora. Però attenzione, perché la Roma è sotto 3-2 a Marassi contro la Sampdoria. Ma addirittura. Vinceva 1-0 con Bruno Perez, pareggio, sì, di Prat, poi Dzeko e poi in 3 minuti c'è stato l'1-2 di Schick e di Muriel, e quindi la Samp è avanti per 3-2. Freak out! E questo significa che potrebbe esserci la fuga, insomma, della Juventus in solitaria, forse decisiva, e la Roma soprattutto rischia di essere agguantata dal Napoli al secondo posto. Napoli che gioca questa sera, poi è sotto anche il Milan a Udine 2-1. Buona Ventura, posso dire che il faraone pareggerà entro 2 minuti, secondo me 3-3 è entrato Totti in 2 minuti, ha messo 2 giocatori davanti al portiere. Attenzione, perché la Sampdoria è una tipica squadra contro cui può segnare Totti. Totti è il re contro squadre di medio-basso livello. Attenzione. No, può segnare. Uno davvero, che può segnare ma veramente. Secondo me farei giocare un po' prima. Ma comunque non è una cosa che ci guarda. Comunque è vero, perché poi hanno vinto in Coppa Italia. Coppa Italia non si capisce. È una manifestazione che le squadre non giocano, poi all'improvviso giochi la ma stessa è sui squadra. Generis, perché becchi l'annata che c'è qualche squadra che la vuole vincere e che invece le altre la snobbano. Quindi non si capisce bene. La Coppa Italia è come Coppa UEFA. Fai tanto per arrivarci e poi dici, ah, però c'abbiamo due. Sentite, ragazzi, Pino che dice ancora Coppa UEFA, quanta tenerezza per questo anziano signore. C'è anche la Coppa delle Coppe, la Coppa delle Fiere. La Coppa delle Fiere e la Coppa delle Alpi. Capuano, dottor Capuano, lei sa che c'è un giocatore di calcio di Serie A che porta il suo cognome? Ce n'è stato più di uno negli ultimi anni, però in questo momento c'è, lo so, e tra l'altro è anche sempre uno dei più positivi della sua squadra. Intanto ha pareggiato il Genoa su calcio di rigore. Attenzione. Io c'ho Sportiello, il portiere della Fiorentina. Anche purtroppo. Per lui doppietta, 3-3. 3-3 chi? 3-3 tra Fiorentina e Genoa. Simeone è stato espulso a Story perché fallo di mano sulla linea di porta, questa è l'azione da cui è nato questo calcio di rigore. Ti dicevo di Udinese-Milan, siamo sì, con 2-1. Pazzesco. Dopo Bonaventura, Terò e De Paul tra l'altro 30 secondi prima andava espulso per un'entrataccia su De Sciglio. Il Milan è rimasto in 10 momentaneamente e su quel lato lì ha segnato De Paul, quindi insomma ce li sarà da discutere. Ha appena pareggiato il Cagliari, gol di Borriello con il Bologna, siamo nel secondo minuto immortale di recupero. Borriello. 3-1 del Crotone sull'Empoli, doppietta di Falcinelli, l'abbiamo raccontata. 4-1 del Crotone, 4-1 tripletta di Falcinelli. Bruno, non te conoscevo così. Sì, forza Crotone, forza Crotone. È vero che sei calabrese anche tu come me di origine. Io segno calabrese, stasera festeggiamo e ne mangiamo capocuollo, soppressata piccante e calcio cavallo. No, ma io mi immagino quello che ha perso al fantacalcio per una tripletta di Falcinelli. È il mio avversario, credo, perché sto giocando contro il Real Taranto di Andrea Brancale, che saluto. E l'hai massacrato. E sono arrivati 3 siluri in una zona del corpo fastidiosa. Ok, altri risultati? No, ma li abbiamo dati tutti. Allora, Cagliari-Bologna abbiamo detto 1-1, ha appena segnato Borriello. E il Torino che finale. Ha fatto a mezzogiorno e mezza, ha fatto 1-1 Torino-Atalanta, vinceva 1-0 Torino che ha perso 14 punti da situazione di vantaggio, se ti interessa. È vero. Dottor Capuano, le posso chiedere se il Papu Gomez ha fatto una buona partita? No, non ha fatto una buona partita. Purtroppo no, è perché l'ho schierato. Ah, l'ha schierato. Ho messo Suso, Papu Gomez e Candreva a centrocampo. È bellissimo che abbiamo chiamato un grandissimo regista, attore, e lui si sa adesso proprio che è un appassionato di fantacalcio, Capuano. Esatto. Suso ha fatto un'ottima partita. Suso Cecchi d'Amico, tra l'altro. Suso Cecchi d'Amico, smettila che Capuano deve preparare la trasmissione, su. Che bello, quanto vorrei fare una trasmissione di calcio offendendo però i giocatori. Ma non perché puoi. Non lo fa, lo faceva la Giallappas un po'. Eh beh, quello solo per Fasciano. Me era un gioco, esatto, era un gioco, se lo fai tu è finito. Che bello, uno mi dice, ecco, guardate Trotta del Crotone, che pippa che è, guardate, ha sbagliato. Invece non lo dicono mai i giornalisti, sempre molto, potrebbe far meglio. Dico. Ma anche perché Capuano facesse una cosa del genere, dico, Capuano, per te Radio 24 finisce qui. Perché Capuano è una persona seria, ma famiglia. Tu che sei un goliardo, potresti farla, certo, se l'età ti consente ancora di vivere. Perché vedo tanto che... siluro di Totti su punizione che Pugioni a fatica ha messo in angolo. Totti è entrato 5 minuti fa, sta mettendo a ferro e fuoco la difesa della Sampdoria. Capuano, siccome la seguo io da tempo, volevo chiedere al volo così, secondo lei, tra Totti e Del Piero, nella storia del calcio italiano, chi ha fatto meglio? Guarda che sei terribile. Ha fatto meglio Del Piero. Però, però io ho una smetti. Preferenza per un'incollatura su Totti. Per un incollatore. Bene, effetti è vero. Però Del Piero è andato a Tokyo a vincere un intercontinentale, Piero, no? Del Piero, ha vinto delle... Del Piero quando si ritroveranno davanti al caminetto potrà raccontare qualcosa di più a Totti. Però io devo dire che la grandezza di Totti secondo me è stata sottovalutata o capita soltanto dentro il raccordo anulare. Mentre invece è un giocatore che fuori da lì avrebbe potuto fare una carriera davvero straordinaria. È vero, sono d'accordo. Allora, io le do il numero, Capuano, del Massimiliano Bruno. La prossima settimana vai a tutti i convocati a Milano, o se no ti colleghi telefonicamente con lui. Se vuole posso collegarmi e parlare di centromediani metodisti, ecco, di vecchi giocatori, da Bedin a Krisetig, passando per Impallomeni, possiamo pensavo parlare che tu fossi, di grandi giocatori. Sì, sono un malato di mente. Sì. Quando la cultura in Italia si affonda anche grazie a me. Beata ignoranza è il titolo tratto dalla tua autobiografia, immagino. Esatto. Dottor Capuano, ti ringrazio come sempre. Alla buona prossima, trasmissione. Palo del Milan con la Padula. Eccola. No, sta succedendo di tutto. Io in un attimo, vedi. Vogliamo rimanere collegati? Quanto mancano 2 minuti alla fine, ma lui la deve preparare che parte subito dopo di me. Dottor Capuano, buona trasmissione, prossima, buona vita. Ciao grazie. Ciao Capuano. E allora, caro il mio amico Bruno Massimiliano. Caro Pino Insegno, amico di sempre. È vero. Possiamo dirlo questo. Ci conosciamo da tempo da tanto. 23 anni, 24 anni. Sì, da quando con mio fratello scalcavamo il teatro. Degli ideati. Qual è stato lo spettacolo, il primo che avete fatto? Abbiamo insieme? Fatto insieme Splatter, gli psicopatici al ridotto del Teatro dei Satiri. Manco il Teatro dei Satiri, Era divertentissimo, credo che Claudio sia un regista straordinario. Sono divertito tantissimo, divertentissimo. Mi stanno I chiedendo, Tre Moschettieri. I Tre Moschettieri e mezzo. Mamma mia. Mi ha detto che gli devo far dire, scusate, Buscio de... Quella, che cos'è no, questa è la frase che diceva Martellone, Martellone il mio personaggio. Chiudiamo con questo, è bellissimo. Ma quindi, a proposito di Beata Ignoranza, dai. Allora, se volete, io lo dico anche sui titoli di coda di Beata Ignoranza, insieme a Marco Giallini, a Gasman e a tutti gli altri. Sì. E Buscio de culo. Io chiuderei qui senza aggiungere nient'altro. Prima che esce il film, oppure durante l'uscita del film, ci rivediamo. Pensate, Radio 24 quanto è caduta in basso. No, no, succede. Se è detto col cuore, è detto per un motivo degno, ci sta, dai. Poi gol che di chi? No, niente, volevo, ma tu sei scemo, volevo fare una cosa clamorosa. Però mi prometti... amici della Roma, gol del... no, da purtroppo non ha segnato. Non fai così, che stai a Roma in questa trasmissione, esci fuori, ti riconosco. Purtroppo la Roma sta perdendo. Massimiliano, per favore, al 98esimo. Sta... buono. Allora, mi prometti che tornerete, ti porti dietro pure Giallini, non so se Gasma sta in quel, certo, del teatro. Mi porto Giallini, certo, Pino Segno, è come no. Esatto, beata ignoranza, ma beata questa bellissima professionalità del grande Massimiliano Bruno. Un bacio, grazie. Gigantesco, ovviamente, non fisico. Esatto, grazie Pino, grazie a voi per avermi invitato a scherzare con voi, ma io scherzo sempre volentieri e forza Crotone. Sempre. Sempre. A prossima domenica, ciao.